A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pensate agli agenti di commercio quando alle 6:30, finalmente, con le palle sudate, le ascelle che puzzano, la forfora sulla giacca, le scarpe sporche di fango, salgono in automobile, accendono la macchina, accendono la radio, mettono la zanzara, fanno una bella scoreggia silenziosa e partono verso casa, pensando che in fin dei conti la vita non fa poi così schifo. Adesso non è che tutti gli agenti di commercio appena salgono su... Devo dire che è stupenda questa fotografia di un agente di commercio, però non credo che tutti gli agenti di commercio, quando salgono sulla vettura, sulla macchina, dopo una giornata, insomma, passate in giro e si avviano verso casa alle 18:30, accendono la zanzara e dicono ah, finalmente c'è, non credo che poco prima fanno una leggera scoreggia, non credo. Però è anche possibile nel relax finale, Parenzo, no? Della giornata, entrano in macchina e come dire, evacuano. Azione di servizio delle 18:36, oddio, a seguito di una proposta, seguito di una manifestazione sindacale da me sobillata, domani la cosiddetta radio del Sole 24 Ore sarà chiusa per 24 ore. Così i padroni cominceranno a rompere di meno i coglioni, diciamo, fino a quando ovviamente non diventerò direttore di questa radio, presidente della Confindustria, sparirà quello spazio del mattino attualmente governato da un signore che anche Alino, perché è piccolino, capito? Milan, che sta a Milano. E fa una trasmissione ignobile che si chiama, mi pare, Ramattino 24 un cazzo. Appena diventeremo presidenti della Confindustria, quella trasmissione sarà abolita, come il Mix 24. Che cosa mixano 24? Dobbiamo assolutamente, con il professor Toni Negri, predisporre uno spazio nel quale parleremo di lotte operaie. Al posto della zanzara ci saranno tecniche di guerriglia urbana. Abbiamo già detto, urbana. Specificheremo come si fanno le bombe Molotov, come si assalta i furgoni della polizia e come si mandano a fare in culo i padroni. Grazie. Ragazzi, andiamo subito al sodo, perché tutta l'Italia e noi ovviamente al seguito la crisi bancaria, è vero? No, la crisi bancaria. Le non fotte un cazzo. Tremano, bravo. Sì, no, è giusto aprire con questo. Non frega un cazzo a nessuno. Tremano, come? Non frega una massa corrente. Adesso. Sì, va giusto. Bene, d'accordo. Crisi bancaria, chi hai chiamato? Il professor Sapelli? Chi c'è di esperto a parlare di questo? L'Italia sta parlando della lite furibonda tra l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, e quello dell'Inter, Roberto Mancini, caro Parenzo. Perché non riguarda solo le beghe di calcio, come sai, Sarri no? Sarri è un cretino, comunque, si può dire, un cretino. Sarri, dunque, Parenzo, due punti, Sarri è un cretino. Ma sì, ma adesso me ne frego, che quelli del Napoli diranno no, è un idiota uno, perché? Deve essere sospeso, perché? Cacciato perché? Con un calcio nel sedere dal calcio italiano, ma che cavolo, su. E adesso che dice pure, no ma io ho tanti amici gay. Sì, ha detto tanti amici ma gay. Ma come sì. Si fa? Ma stai zitto, ma Napoli, ma adesso quelli di Napoli, dai, cominceranno a chiamare tutti, adesso c'era sì, Antonio da Napoli, Ciro da Napoli, Mazzarino da Napoli, Cazzo da Napoli, Cuculu da Napoli, che noia. Via! Allora, devo dire che Parenzo si è crucianizzato in questa apertura. No, ma vedrai che adesso chiameranno tutti, perché ecco, no, non potete dire Sarri, basta! Ma via dal calcio, Sarri, me ne frego. Napoli, chiamate 800-24-0024. Chiamate, Sarri deve andare a casa sua. Non deve più mettere piede in uno stadio. Basta, Sarri, ma via. Perché, scusa? Via, via, via. Perché ecco, non chi è adesso? No. Silvia da Napoli, Antonio da Napoli, Cazzabubolo da Napoli. Ma avete rotto i coglioni, se telefonate, ma avete rotto, ve lo dico subito. Non rispondo alle vostre cazzate di tifosi che chiamerete. Sarri ha ragione, perché... No, fine. Vabbè, avete ascoltato così, Parenzo nei panni di Cruciani. Cioè, secondo lui, Sarri va cacciato dal subito. Pallone. Va cacciato dal pallone. Però io ricostruisco tutto, poi dico come sì. La penso. Non penso che Sarri vada cacciato dal mondo del pallone, no. Che è la stessa cosa che pensa Mancini. E probabilmente, dopo frasi del genere, in Inghilterra, negli Stati Uniti avrebbe avuto molti problemi, moltissimi problemi. Addirittura il proprietario di una squadra in America, per delle frasi molto pesanti, credo sul sesso, sui neri, è stato costretto a vendere la sua squadra. Ma qui siamo in un altro mondo. Ricostruiamo però quello che è accaduto. Alla fine della partita si insultano i due allenatori, lo sapete. Mancini va davanti alle telecamere e pronuncia queste parole. Ha usato parole razziste. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inveire contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. Battibecco... Dovete domandare a Sarri, che è un razzista, e gli uomini come lui non possono stare nel calcio. Questo episodio è troppo importante, cancella tutto? Sì, cancella tutto, sì, perché una persona di 60 anni che si comporta così è veramente una vergogna. Una vergogna. Perché si può anche litigare in panchina, si può non essere d'accordo. Lui è una vergogna. Va bene, in spogliatoio sono andato a cercarlo. Lui ha detto, ti chiedo scusa, non mi devi chiedere scusa, ti devi vergognare. Perché uno che pronuncia quelle parole, in Inghilterra non avrebbe più neanche messo in campo in un campo d'allenamento. Quindi io non parlo della partita. Allora, riportiamo anche le parole di Sarri, che ha detto certi episodi devono rimanere sul campo, che francamente mi sembra una cosa ridicola. Adesso lo dico molto chiaro. Questa cosa qui mi sembra una cosa un po' alla Cutolo. La dico forte, Parenzo, mi sembra una cosa un po' camorristica alla Cutolo. Certe cose devono rimanere sul campo, non si debbano dire davanti alle telecamere. È una cosa un po' cutoliana, dato che siamo a Napoli, avrei detto Cutolo, come si potrebbe dire Rina. Un po' cutoliana come cosa, Cioè, l'omertà. Ma io mi ero nervosito per la decisione su Dries Mertens, non ce l'aveva assolutamente un Mancini, ho visto... che lui si lamentava per l'entità del recupero, a me sembrava poco, però sono cose da campo che dovrebbero finire in campo. A me i vecchi mi hanno sempre detto che quello che succede in campo finisce lì e ci si dà la mano e finisce tutto. Quindi cose normali da campo era meglio se non succedevano, però sono le classiche litigate da campo. Allora, Sarri poi dice io non sono un omofobo, ricevendo il tapiro ha detto quello che ha riportato prima Parenzo, cioè ha detto amici gay, anche quello secondo me farebbe meglio a stare zitto in queste ore Sarri, secondo me l'unica cosa è stare zitto, aspettare la squalifica, casomai protestare e fare appello con la squalifica. No, ma è peggio quello che hai fatto sentire in audio. Più si parla secondo me peggio è. No, più ma è si... peggio, perché quando lui dice certe cose devono rimanere nel campo è come dire che nel campo all'interno di quei 90 minuti maledetti si dice puoi di dire qualunque cosa. Infatti si dice qualsiasi cosa, ma cosa che non è. Si dicono bestemmie, cose, ma si dice qualsiasi cosa che non è. Non puoi se gioca un ragazzo di colore, gli fai bu bu bu bu bu bu o gli lanci la banana. Aspetta. Siamo scemi. Poi mi ha detto vecchio cazzone. Aspetta, mi ha detto vecchio cazzone. E i napoletani devono essere i primi a volerlo cacciare a pedate del sedere. Dai, i napoletani, su. I primi. Allora iniziamo. Sulla testa, napoletani, sulla testa. Adesso allora, iniziamo subito, dai. Ecco noi Raffaele Auriemma, che è un mio amico che partecipa a Tiki Taka, la voce del Napoli. Raffaele, buonasera. Chi è questo Guitto? Ha cominciato col piede giusto, Auriem. Ma che fai, la parodia del... ha cominciato col piede giusto, Auriem. Amiche mie, ma che c'entra? Stammi a sentire, Auriem, stai cominciando sbagliato con me, eh? Cominci sbagliato. Vai, vai, scusa, scherzi a parte, hai cambiato programma. Auriem, stai marcando male. Ma perché stai facendo la parodia? Stai a marcar male, Auriem. Ma perché sta facendo la parodia? Ha iniziato lui a dire il guitto. Io non stai marcando male. Facendo questo, Auriem, vuoi fare aspetta, l'ironico, no? Il simpatico o il razzista? Cosa vuoi fare, Auriem, di queste tre cose? Auriem, il simpatico, l'ironico e il razzista. Hai iniziato dicendo guitto. Guitto è iniziato. Certo, uno, ecco, uno che sento il telefono che dice se sciocchezze sarà... Allora, sarà una Sarri, parodia, no? Sarri non deve più mettere neanche mano e ne mani neanche nel calcio balilla, neanche quelli delle spiagge. Perché, non ho capito, perché capito? Secondo te non ho capito, perché ha dato del frocio del finocchio a Mancini. E peggio ancora, perché poi dice no, certe cose devono rimanere nel campo, come se in quel campo potesse uno può dire quello che gli pare. No, non funziona più così, non è così. Aurelio, ma rispondi tu. Ma guarda Giuseppe, io posso rispondere a te perché... Tu hai un minimo di competenza calcistica. No, ma qui però si è, questa cosa che c'entra il calcio? È sulla però, c'entra? È sulla dal calcio questa roba qua. Se mi fate parlare, vai, vai, dimmi. Non attacco. Vai, vai, dimmi. Okay. Dai, dimmi. Allora, questa cosa che ha detto Sarri non la dice solo Sarri, ma la dice tutto il mondo del calcio mondiale. Beh, quello che accade in campo. Non è che tutti gli allenatori dicono Procio e Finocchio un altro allenatore. Dai, Raffaele, su. Ma io sto dicendo un'altra cosa. Cosa? È che fate finta di non capire. No, no, no. Stiamo no, parlando difendere che in campo forza. Le cose che accadono in campo devono stare in campo. Ma perché, di questo, perché no? Devono stare in campo? Scusa, alcune cose. Dipende che cosa si dice. Se è un codice etico che esiste tra tutti i calciatori del mondo. Perché essendo alta l'adrenalina, l'intensità, sì, ti può scappare una cosa che non pensi. Poi dopo, finita la partita... chiedi scusa, t'abbracci. Cioè, secondo te, allora fammi capire, no, per capire la tua teoria. La tua teoria è che siccome... Non è la mia teoria. Io ti sto spiegando quello che accade nel calcio. No, d'accordo, ho capito. Quello che accade nel calcio. Quello, tutto, quello che accade nel calcio, per secondo questo te... signore vale aspetta, tutto, aspetta, quindi. Aspetta. Allora, secondo Auriem, prendiamo le cose sul serio. Per però, questo sennò, signore, secondo vale Auriem, ti sto dicendo quello che accade nel calcio. Informatevi. Se non mi credete. Scusami, nella vicenda, per esempio, come si chiama? Nella vicenda Materazzi, famosa, eccetera. Alla fine è uscito quello che ha detto che avrebbe... Dopo quanti anni? Sì, è uscito dopo un po' di tempo. Okay, è uscito dopo un po' di tempo. Però non dopo tu stai dicendo che Mancini non doveva andare davanti alla telecamera a dire quelle cose, giusto? Non lo dico io, lo dice il mondo del calcio. Ma no, dice il mondo del calcio. Credo che Mancini abbia deciso di rompere un patto che esiste nel mondo del calcio. E mi sta benissimo. E perché lo ha fatto, secondo te? Perché lo ha fatto, secondo te? Ma non lo so, finalmente, nessuno più in campo offenderà, darà del frocio a qualcuno e dirà che la mamma di un altro fa delle cose sconce con qualcun altro. Cioè, finalmente, ma sai perché? Dico così, finalmente fermiamo il calcio, perché se noi andiamo a condannare tutti quelli che si offendono in campo, sì, il pallone non ci sarà più. Cioè, Auriemma difende anche non le offese, le volgarità inaudite, tipo frocio usato come termine dispregiativo, tipo negro. Bravo Auriemma. Ma simpatico sta Auriemma. L'avevo già visto a Tiki-Taka. Non sta dicendo. E già mi ero fatto un'opinione su di lui già in passato. Guarda, veramente dico, tu non sei manco un guizzo, già sei qualcosa passato, di peggio, già in passato. Però scusa Auriemma, non ha detto questo. Ha detto, non ha detto, ha difeso qualunque cosa. No, non ha detto sul che campo è giusto dire qualunque cosa. No, ma scusa, aspetta però, Raffaele. Ma se uno dicesse Auriemma Cornuto, scusami, che non capisce neanche quello che dico. No, però scusa, Auriemma ha detto un'altra cosa. Ma se io dicessi, e non lo voglio dire, Auriemma Cornuto. Ma lui non lo dice in campo, durante una partita. Se durante la partita dico Auriemma Cornuto, no? Benissimo, Auriemma Cornuto e ci sta perché fa parte del gioco. Ma se io dicessi Auriemma stronzo pezzo di merda mentre gioco a calcio lì nel campo, secondo lui deve rimanere lui in campo. Giustamente avrebbe diritto ad offendersi un po' e a dire, beh, però scusami amico mio, c'è un limite, un però conto secondo magari lui tutte le offese che vengono dette nel campo, siccome sono frutto dell'adrenalina, devono rimanere lì e due no, secondi lui dopo dice che è frutto dell'adrenalina, sì, quindi certo, è tutto condonato, quindi è tutto sanato. Giusto? Ma hai messo piede una volta in un campo di calcio? Ma come no? Certo. L'hai messo? Sì, certo. Ma dove? Ma quale campo? Beh, campi minori di calcio, ma oltre ad andare allo stadio a San Siro, ovviamente. Non ha fatto a vedere le partite. Vabbè, ma anche a giochicchiare, a calcetto da ragazzino, nelle scuole superiori, quelle che forse lei ha mal frequentato, nelle scuole superiori. Perché ma gli stai dando dell'ignorante, no, non ho capito. Ho detto mal frequentato, non allora, non frequentato. Aspetta un attimo, che c'è il traffico e torniamo con Aurelio. Siamo in una partita di calcio, siamo alla Zanzara. Fermo. Siamo alla Zanzara. Fermo. Grande derby. Fermo. Il traffico è il problema. La Zanzara. Allora, io penso, adesso dico quello che penso e mi confronto con Auriemma su questo, io penso che Sarri abbia fatto un danno a se stesso e al Napoli, su questo non meno c'è male, dubbio, va? Secondo me, no, un danno a se al stesso calcio e al Napoli, in generale. Ma me lascia perdere il calcio, un danno d'immagine a se stesso e al Napoli. Per poi un Auriemma non ha detto neanche aspetta, niente, aspetta, per nulla, un semplice non è che deve condannare lui, che è il giudice della Cassazione, no, siccome lui dice ha quello i tifosi che del Napoli, ma dice ha quello... paura a dire che, hanno che ha sbagliato. Aspetta, ma non è che uno dice quello che pensa, non è che faccio il processo alle intenzioni, io Sarri, David, dai, su. No, lui ha paura di dire ma Sarri lo pagate ha pure sbagliato. Al suo soggetto qui? Sì, molto anche, moltissimo, moltissimo. Allora, aspetta un attimo, allora io penso che Sarri abbia sbagliato. Io sono pagato dal calcio a Napoli, meglio, per difendere il calcio è Napoli. Meglio stare zitti in questo caso, senza tentare giustificazioni, bravo. Prendere una squalifica, punto, e basta, quella appunto. Che sarà. Però bisogna ricordare alcune cose. Mancini che ha fatto questa uscita davanti ai microfoni della Rai, fu, probabilmente, come dice Auriemma, rompendo quello che di solito avviene nel mondo del calcio, cioè non dire nulla, ma io per questo lo elogio, perché quando uno ci mette la faccia e dice delle cose, a meno che non lo faccia per motivi capito di paraculismo, io lo appoggio. Però lo stesso Mancini anni fa, e su questo però dovrebbe tornare Mancini dicendo ho sbagliato nel passato, adesso mi sono ricreduto, diceva quando per esempio Mihajlovic, che all'epoca credo fosse un suo giocatore, lui era il vice allenatore, e diceva scimmia negra di merda, non mi ricordo a quale giocatore di quale squadra, una squadra straniera, lui disse che erano a Vieira dell'Arsenal. Lui disse che erano momenti di tensione agonistica. Un'altra volta invece, di fronte ad uno striscione recentemente dei tifosi dell'Inter, credo, contro i tifosi del Napoli, Napoli fogna d'Italia, lui ha detto che era solo uno sfottò come ogni domenica in tutti i campi. Sbagliatissimo. Allora, sbagliatissimo in tutti e due i casi. Allora io ho il sospetto però che uno si erge, diciamo, a simbolo del moralismo, a simbolo della giustizia, della verità e della pulizia, quando riguarda se stesso, quando riguarda se stessi, quando riguarda la propria squadra, quando riguarda il proprio orticello, quando invece riguarda gli altri, capito? Le cose cambiano, cioè il contrario, insomma. Quando riguardano gli altri, invece quando riguarda la propria squadra è lì a difendere l'indifendibile. È così secondo te, Raffaele? Beh, l'hai detto tu, Giuseppe, stanno i fatti, è così. Ma perché l'ha fatto secondo te? Perché l'ha fatto Mancini? Perché probabilmente ha deciso di squarciare questo velo e quindi tutto di fare ciò... un danno a Napoli, una cosa pro Inter per mettere in difficoltà Napoli in corsa per lo scudetto. Io credo che un po' di malizia in questo ci sia, perché comunque sai, non è che lui, la mammoletta di campo, ha preso questa offesa, si è rinchiuso in se stesso e poi alla fine scotto ha confessato tutto davanti alla TV. Lui prima di tornarsene negli spogliatoi si è tolto il cappotto, ha detto a Sarri ti aspetto giù, è andato a prendere Sarri negli spogliatoi e notizie che filtrano direttamente dal Napoli li hanno dovuti dividere, perché è entrato nello spogliatoio con intento certamente di picchiare Sarri. Non lo so, nonostante Sarri gli avesse teso la mano, gli avesse chiesto scusa, ma d'altra parte lo ha detto stesso Mancini. Cioè, allora, puoi dire però, suo Parenzo dice che tu non ammetti nemmeno che Sarri abbia sbagliato. Ha sbagliato o no? Sarri? No, non ha sbagliato. La prima cosa che ho detto, Sarri ha sbagliato ad offendere, lui non deve offendere, però nel momento in cui si offende sotto lo stress adrenalinico e subito dopo si chiede scusa privatamente, pubblicamente, credo che possa bastare lì. Devono essere bandite alcune offese, alcune supposte offese. Dare del frocio a uno in quel modo. Riusciamo, sarò felicissimo. Se ci riusciamo. Ci vuole l'esempio. E qui mi dispiace, Sarri dovrebbe più mettere piede in un campo, no da calcio, da calcetto, neanche nelle spiagge. Ma questo francamente mi sembra una follia, Davide, dai, su. Ma perché fanno ci vuole l'esempio invece nei microfoni l'esempio. Di Radio 24? Questa mi sembra francamente una... chiedo, ma chi ti appoggia? A me? Sarri mi appoggia. Ma chi? E De Laurentiis. Ma io non lo so. Sì, mi sembra, mi sembra francamente, Davide, mi sembra francamente una follia questa qua. Dai, tu stai dicendo che per dare l'esempio più di cori razzisti, non se ne può più di cosiddetti insulti fatti non da tifoserie scalmanate, ma dalla dirigenza di una squadra. Di questo non se ne può più, perché Sarri non è un Auriemma qualunque, capito? Sarri è l'allenatore, non è, dice l'Auriemma. Cioè, dovrebbe dare l'esempio, se dà il croce del finocchio a un altro allenatore. Ma certo, non è Auriemma, va bandito è dal mondo del calcio, cacciato definitivamente dal mondo del calcio. Basta. Io vorrei sapere chi è lo sponsor politico di questo guitto. Te l'ho detto chi è. Però Raffaele, è impensabile. L'ha detto Mancini, ma l'ha detto però l'ha detto anche Mancini. Nazionale. L'ha detto Mancini pure, non è che l'ha detto solo Parenzo adesso, sì, l'ha detto pure Mancini ieri sera. Giuseppe, se noi comunque c'ho un'adrenalina, adesso devo offendere Auriemma, perché c'ho l'adrenalina. Ho l'adrenalina, devo offendere Auriemma. Devo sentire questi personaggi. Eh no, ho l'adrenalina. Siccome l'adrenalina è il tuo programma, sinceramente. No, lascia perdere, ognuno dice quello che vuole. Ho l'adrenalina. Ho l'adrenalina, posso offendere Auriemma? Ho l'adrenalina, tanto rimane tutto qua, no? Beh, no, è un po' diverso il campo rispetto al microfono. Perché è diverso? Siamo in casa, stiamo discutendo. Devi fare veramente. C'ho l'adrenalina. Devi avere il coraggio. C'ho l'adrenalina. La cosa dell'omertà. Però io, a differenza di Sarri, mi trattengo avendo l'adrenalina e pensando delle cose su Auriemma. A differenza di Sarri, io mi trattengo. Come si chiama? Però scusa, il coraggio, dille. Raffaele, c'è anche un'altra cosa. La cosa dell'omertà del calcio è una cosa un po' mafiosa, ndranghetistica e camorristica. Cioè, se uno la vuole mettere così, io ho detto sembra un po' cutolo, va lì, alcune cose devono rimanere tra di noi. Ma che vuol dire? Se uno mi offende e mi dice Froce e Finocchio, perché quella è uno, detta in quel modo, Froce e Finocchio è un'offesa o no? Io sono d'accordo con te. Ma allora perché stiamo ragionando su di una questione nella quale io sono uno spettatore, uno coinvolto professionalmente, ma non le ho mica dettate io queste regole. Ma non sono regole, non esiste la regola del non dire le cose che succedono. È un codice. Ma i codici sono i codici della mafia, i codici d'onore, della camorra. Ma tu che vuoi da me? No. Io non partecipo al fenomeno del calcio. Ho capito. Vabbè, ciao Raffaele, a presto. Mi fa piacere che tu lo stia denunciando e quindi probabilmente Mancini avrà raggiunto un risultato. E qual è quello? Ora non ci sarà. Ma la squalifica ci sarà secondo te? La squalifica ci sarà o no? Ma io penso proprio di sì, la squalifica ci sarà per entrambi. Mi auguro che i dirigenti federali e quelli che erano lì per la Lega abbiano visto tutto quanto accaduto. Vabbè, cazzone, anche nello spogliatoio, cazzone più tentativo di aggressione, tu dici alla fine fa pari con Frocio e ecco. Secondo me andremo a finire in questo modo. Vabbè, fa pari non credo, comunque. A dopo. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ho sentito Cruciani che parlava della puzza della merda, cioè come mai la merda puzza? Una cosa stranamente interessante, cioè veramente ci dovrebbe essere il momento Wikimerda, Wikimerda con Cruciani. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Allora ragazzi, io direi di aprire dopo lo scontro Parenzo Auriemma e dopo quello che abbiamo detto sul Napoli, su Sarri, su Mancini. Ovviamente non c'è solo questo, ci sono un sacco di cose, c'è l'argomento Froci, perché io quando dico la parola Froci lo dico con amore. Cioè lo dico con affetto, lo dico perché un po' sono stato autorizzato con una bolla papale dalle massime autorità del mondo omosessuale, un po' perché i froci si chiamano così anche tra di loro, dicono la frocia, il frocio, però lo dicono senza acrimonia, senza insulto. Il modo in cui lo ha detto Sarri a Mancini, mi pare del tutto evidente questo, è un modo offensivo, perché sì. Se uno dice frocio, finocchio, lo dici per offendere, dando una impronta negativa, un senso negativo a queste parole. Dopodiché non è che una cosa da andare in galera. Il fatto, io credo una cosa, che Sarri gli volesse dire sei una fighetta, cioè sei uno precisino, si sente non un po'. Non c'è esegesi da fare. No, ma credo, è un'ipotesi che faccio, siccome lui. Ma dov'è da... Auriemma? No, dov'è è andato via, è tornato. No, perché siccome ho l'adrenalina a mille, vorrei insultare, perché ho capito che quando uno ha l'adrenalina può dire qualunque cosa. Questo ho capito da Auriemma, da questo tal Auriemma. Da questo tal Auriemma, signora Auriemma, che non si capisce neanche quale lavoro faccia questo signor Auriemma. Negli anni 60 uomini come Auriemma venivano inseguiti a calci nel culo, cacciati dalle università mai frequentate, peraltro. Personaggi padronali. Allora, gira sul web, girano tantissime cose su questa vicenda. Una è bellissima perché c'è Mancini praticamente truccato da donna, Roberta Mancina. Ma come si permette quella stupida di Sarri a chiamarmi Finocchio? Non c'è più rispetto per una signora. Perché poi il sospetto dietro questo, ridicolo, ma non ridicolo perché uno può essere tranquillamente frocio, Finocchio, gay, eccetera. Molti dicono, beh, Mancini se l'è presa perché in fondo è omosessuale, perché in fondo è gay, altrimenti non se la sarebbe presa. Mamma mia, ragazzi. Andiamo a Caserta, Vittorio, vai! Non sono casertano, anche se chiamo da Caserta, Vittorio Poco di Canistro L'Aquila. Vabbè, è uguale, Vittorio, ascolta, vai. Non è uguale. Ascoltami un attimo. Io sono un grande stimatore di Parenzo. Sì. Però stasera ho fatto girare i coglioni, perché praticamente ha fatto quello che normalmente fa Cruciani, quindi ha fatto una crucianata. Ha detto quello che pensa, dai. Ma infatti una crucianata che non gli si dice, perché... Il buon Parenzo, secondo me, è una gran persona, serio. Vabbè, allora? Allora, ma voglio dire, che Mancini sia una fighetta, come hai detto tu, che sia un piagnucolone, è noto a tutti quanti. Dove sta la grossa offesa? Gli ha detto frocio? Lo è. Se lo è, gli ha detto è incredibile. Se non lo è, non penso sia un grosso problema, voglio dire. Parenzo, ma io guarda, veramente. Parenzo è ebreo. Ebreo è un'offesa, non mi pare. Beh, ma dipende come lo dici, scusami. A parte che io. Ma io veramente non capisco. Ma il tifo non può. Ma il tifo non può obnubilare qualunque cosa. Scusa, Vittorio. Il tifo. Anche questa cosa qui, però, Vittorio, anche questa cosa qui, che il mondo del calcio deve essere totalmente omertoso nei confronti delle cose. Ma dai, a me quelli che mi dicono. Qua tu non hai mai giocato a calcio, non metti piedi in un campo, per carità, se ne dicono ma di tutti i colori. No, ma io sento delle bestemmie pazzesche. Dopodiché, se uno bestemmia, però ha la sfortuna di essere sentito da qualcuno, o ha la sfortuna di incappare. No, ma se ne sento, ti assicuro che in campo i giocatori bestemmiano come matti. Però, se la bestemmia si sente, il giocatore viene squalificato. Cioè, questo è il punto fondamentale. Ma uno... verrà sicuramente squalificato. Però allora, già una volta Sarri aveva detto non mi piace una squadra di Finocchio, una squadra di Frocio, una squadra di Checche, non mi ricordo. A me non fa paura la parola Frocio o Finocchio, non mi interessa, figuriamoci, non mi faccio fermare da queste cose qua. Ma siccome lui fa l'allenatore del Napoli ed è una figura importante, la squadra prima in classifica, dice a un altro allenatore, a un altro collega, una cosa che non si era mai vista, perché i giocatori si offendono, se ne dicono di tutti i colori, uno può essere d'accordo o meno, ma succede. Ma un allenatore nei confronti di un altro allenatore che a fine partita, solamente perché gli rode il culo che ha perso quello che ha dei minuti di recupero, stiamo 2-0, gli dice Frocio Finocchio in modo offensivo, è un cretino, perché fa un danno a se stesso e alla squadra che è prima in classifica. Non credo sia omofobo, non credo che odia i gay, ma non conta nulla, non conta niente. Che abbia detto una cretinata. E allora, questo ha detto una cretinata, punto, bisogna stare zitti, prendersi la squalifica e a casa, punto. Non adesso tutti il complotto contro Napoli, ci vogliono male, ma dai, su. Io sono milanista, quindi penso che mi può interessare uno o l'altro. Ragazzi, è una cazzata, dai, forza, è una cazzata. Antonio da Catania, vai. Ciao, sono Antonio. Dimmi Antonio. Ex calciatore, dalla terza categoria fino alla prima, e poi mi sono infortunato brevemente. Vabbè, è uguale, dai, ex calciatore o no? Ma io non cambia. No, vabbè, ma ho scioccato i campi, so bello male che quando arrivi a correre per 90 minuti a un certo punto. Poi un altro che dice, per tutte le parolacce che dici tu ti dovrebbero radiare dalla radio, ma che cazzo c'entra? Ma sono due cose completamente diverse. Noi ogni tanto, non sempre, diciamo delle parolacce che poi alla fine sono sempre quelle, no? Cazzo, e alla fine è solo quella la cosa, non c'è nient'altro, vaffanculo pochissimo, ma non è quello il punto, adesso non sto facendo l'analisi, sì, ma è quello alla fine, cioè poi usiamo ogni tanto dei linguaggi espliciti per quello che riguarda il per quello che riguarda il sesso, ma il punto non è quello, cioè il punto è un altro. Che c'entra il conduttore radiofonico di una trasmissione, con un allenatore di calcio? Sono due cose completamente diverse, è un'altra cosa, ci sono altre regole. Se qualcuno si sente offeso perché uno mi dice una parola, cioè mi porta in tribunale. Se uno, se io gli dico testa di cazzo e coglione, ma mi non porta può in tribunale. Adesso c'è il lodo Auriem. Il lodo Auriem prevede che se tu sei, hai l'adrenalina, puoi dire quello che ti pare. Chiamalo Auriem, perché in questo momento ho l'adrenalina alle stelle, voglio dire una parolaccia, così nessuno si arrabbia. Vabbè, Antonio, che vuoi dire allora? È incredibile. No, perché a parte in Italia siamo abituati da un microbo a trasformarlo in situazioni. Ma questo enorme, non è un microbo. Se uno dice ad un altro allenatore, scusami Antonio, dai. No, ti spiego perché è un microbo. Perché Sarri ha sbagliato, ha ammesso che ha sbagliato, si prende la sua bella punizione e basta, ed è finito tutto là. È finito, è inutile parlarne all'oltranza. Cioè, è finito. Sarri ha sbagliato, ha anche detto che ha sbagliato. Basta, si prende la sua punizione, gli daranno la multa, gli daranno la sospensione di qualche 4-5 giornate, è buono, e finisce tutto là, poi di resto non se ne deve parlare più, perché il frocio che gli ha detto, intanto è stato per offenderlo, perché è chiaro che l'ha offeso, perché l'ha voluto dire in maniera offensiva, e poi è normale che in certi momenti della partita ti scappa la testa, perché a un certo punto non ti arriva più ossigeno al cervello e ti scappa qualche mala parola. Ma lui l'ha detto che ha sbagliato, cioè, quindi fare una discussione su questa cosa, puoi dire che anche ce l'hanno contro Napoli, no, ha detto una cazzata, viene punito per la cazzata e buonanotte, tutto è chiuso. Basta. Poi il perbenismo di Parenzo proprio è eccessivo. No, ma nel superbenismo, semplicemente che se uno fa una cosa paga per quel che fa, anziché appellarsi alle regole presunte del calcio. Gennaro Napoli, vai Gennaro. Salve, buonasera. Dimmi. Senta, niente, Cruciani, io ammetto, insomma, da napoletano, è brutto, insomma, sentire quelle cose. Però mi sembra che sicuramente doveva restare nell'ambito del campo di calcio, perché anche negli spogliatoi, insomma, noi non lo vediamo, perché vediamo la partita, però ne succedono di tutti i colori. Mi sembra che stanno un po' esagerando, anche Parenzo mi sembra che scenda dalle nuvole, non si meraviglia che da anni sentiamo praticamente dei cori sugli stati contro i napoletani. Ma non c'entrano niente i cori sui napoletani, non c'entrano nulla, ma cosa c'entra? A parte che ogni tanto vengono punite quelle squadre. Io parlo di un accanimento proprio. Ma quale accanimento? Basta con questo vittimismo, inutile, basta. Basta con questo vittimismo. Ma quale vittimismo? Guarda, che non sono realtà. Sono realtà. Senti, se qualcuno fa dei cori contro i napoletani, questo fa parte purtroppo ma delle usanze. Ne parla, Cruciani, ma che nessuno ne parla, ma non dire stronzate, dai, su. A noi non ce l'ho perché tanto odio, tanto onore. Però voglio dire. Tanto odio, tanto onore. Senti, se non te ne frega niente, perché continui? Scusa, perché lo dici? Perché lo citi allora? Cioè, no, perché citi una cosa a sproposito? Perché i cori che si fanno allo stadio con le cose che ha detto Sarri non c'entrano niente. Lo so che non lui c'entra, già una volta aveva detto: non voglio una squadra di finocchi. Mi sembra uno scandalo, insomma, quello che è successo ieri, praticamente uno scandalo che non finisce mai. Ok, e poi insomma. Scusa, ma se un allenatore dice un altro allenatore, Finocchi e Frocio, è francamente un po' cavernicolo, diciamo la verità. Ma che vuol dire se ne sentono di peggio? Se un allenatore dice ad un altro allenatore, non un giocatore, no, il comandante in capo di una squadra dice ad un altro comandante in capo: sei un finocchio, sei un frocio, per offenderlo, sei un cavernicolo. Ora uno dice purtroppo. Scusa, ma anche nella tua redazione, ma sai quanto se ne sentiranno? Io lo immagino. Cioè, purtroppo, veramente, cioè, però anche questa cosa, Finocchio e Frocio, non so perché, ma ne dico tante, magari dico testa di cazzo. Finocchio lo dico io dalla mattina della sera. Tu dalla mattina alla sera dici Finocchio. Dici Finocchio dalla mattina alla sera. Scusa, ma ti potrei chiamare pure a te in questo momento. Gli dice non la devi prendere come offesa. Ma io non la pido come offesa, non me ne frega niente. Su campo, tu lo sai benissimo, cioè, tu sei ragazzo, non è che lo sfogo sul campo, perché gli dai del finocchio, gli dai del frocio? Perché intendi per finocchio e frocio? È la prima cosa che gli è venuta in testa, che ti devo perché dire? Tu hai no, ma lo sai perché, Gennaro? Perché lui pensa al finocchio e frocio come dei debolucci, come delle fighette, come delle persone gnegne. Sì, a volte per quello. Sai, quando si interviene su un avversario praticamente e subito insomma accendo la caduta, cioè, il finocchio è un debole. Esatto, una femminuccia è un debole. Ma guarda che io conosco sì, Gennaro, però io conosco omosessuali che te fanno un mazzo così, se non un culo così, in tutti i sensi, forse, dai. Oggi se non sei frocio non sei nessuno. La Zanzara. questo è palese, evidente, di poter dire qualsiasi termine e non c'è nessun tipo di discriminazione, mi sfugge questo termine, ma è che le scuse siano agli omosessuali, se il termine è usato è quello, è palese, cioè io non ho nessun tipo di remora sotto questo punto di vista. A me fa impazzire questa cosa dell'omertà, cioè le cose che si dicono sul campo devono restare lì. È una cosa ridicola, certo che se uno ti dice vaffanculo, cioè, anche se poi no, lo vai a raccontare non succede nulla, perché i vaffanculo ci possono stare. No, a parte che se uno lo sente, se un arbitro sente e viene mandato a fare in culo, ti caccia dal campo prima. Poi se lo dicono i giocatori tra di loro, chi se ne frega. Ma se tu mi dici, come diceva giustamente Parenzo prima, no, tua moglie è una puttana, tua moglie è una scopa con chiunque, uno poi si può anche incazzare, no? Beh, legittimamente. Magari non ti squalificano, però ti incazzi, lo puoi anche raccontare fuori. Non è che tutto deve rimanere all'interno. Allora, c'è un signore che è il direttore di Calcio Azzurro 24, un blog del mondo del Napoli, no? Il quale ha scritto: pezzo di merda, a me, Cruciani, pezzo di merda, come ti permetti di edificare Sarri come cutolo? Chi cazzo credi di essere? A parte che ha scritto con qualche errore, ma chi se ne frega. Il suo gesto paragonabile a Cutolo, non ho detto questo, caro amico, cari amici di Napoli, non ho detto che il suo gesto è paragonabile a Cutolo, io ho detto semplicemente che l'idea dell'omertà è un'idea cutoliana, in questo caso sì, allora ho detto Sarri, ovviamente è una provocazione, se volete anche una piccola esagerazione, però è un comportamento cutoliano, camorristico, ndranghetistico, mafioso, camorristico, come lo devo dire? Siccome eravamo a Napoli ho detto Cutolo per dire la camorra. Se tu dici, no ma questa cosa qua lasciamola tra di noi, non se ne parla fuori, tutto quello che si dice, anche se ti dico ho sparato a tua moglie, ho ammazzato uno, però lo diciamo in un campo di pallone, allora va bene, ma dai, su, è ridicolo. Allora andiamo a Lucca, Pierluigi, vai, Pierluigi. Pierluigi non c'è, Giuseppe Napoli, vai. Sì. Sì, dimmi, vai, dimmi. Ti volevo dire, è vero che Sarri ha offeso Mancini. Ma io non so se lo ha offeso, cioè non è che ha offeso Mancini, perché uno si... No, ha offeso Mancini perché ha usato... Ma no, ma probabilmente non si è nemmeno sentito offeso Mancini, cioè perché non è che uno si sente offeso. Oddio, a me se mi dicessero Frocio Finocchio non mi sento offeso, cioè non me ne fotto. Ma è l'atteggiamento di un allenatore di calcio che... in trasmissione, pare proprio di sì, anzi. E dunque, secondo te, perché si è offeso? No, ma io... Allora, secondo me ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato Sarri ad offendere. Però se io decido di offendere una persona, che termine devo usare? Ma cosa? Cioè, io l'offesa è offesa, giusto? Non posso dire a uno se lo sto offendendo birichino, ti do le totò. No, ma allora forse non ci capiamo. Qui è anche in discussione il tipo di offesa, perché mandarsi a quel paese o a fare in culo, a seconda del contesto, non è di per sé grave, è il tipo di offesa che ha scatenato queste reazioni. O si capisce questo, o, cari amici di Napoli, non potete giustificare l'impossibile. Quale tipo di offesa? Se si gioca, quando si gioca al calcio, io ho giocato a pallone. Quando si gioca al calcio vale tutto, va bene, d'accordo. Il teorema del professor Auriemma, professore. Dai, comunque posso dire una cosa, che Sarri è molto meglio dei suoi difensori. Te lo dico io, Sarri alla fine è molto meglio dei suoi difensori mediatici. Sì, certo. Dei suoi difensori mediatici e dei suoi, come dire, tifosi. Scherri. O di tutti quelli bravi. Che mi augurano la morte di leucemia sul web semplicemente perché ha detto una stronzata, deve stare zitto e deve pagare con la squalifica, che è quello che penso. Dopodiché non deve, come dice Parenzo, uscire dal calcio, no, come per dice sempre. Anche... Per sempre. Ettore Milano, vai, Ettore. Ne avremo un ricordo lontano. Ettore, dimmi. La prima domanda è per il signor Parenzo. Eccoci. Quando lui scimmiotta l'accento napoletano. Sì. No, scimmiottava Auriemma, non l'accento napoletano. Sì. Prendeva in giro Auriemma perché si può fare tutto, come ha spiegato Auriemma. No, io credo che non si possa fare, proprio per una questione legata a delle dinamiche. Ma era lui che ci spiegava razzista. Che si può fare tutto. No, stiamo parlando di razzismo. Ma noi siamo io in una partita di calcio, radiofonica, che si alla può fare tutto? No, certo, ma che alla base del rispetto reciproco, lo scimmiottare un napoletano con un accento molto forte, marcandolo proprio per fare l'accento napoletano, che cos'è? Una presa per il culo, non ho capito. Fare l'accento napoletano, che cos'è? La domanda era questa. Ma dai, su, ma smettila, Ettore. La domanda era questa. Per il signor Parenzo, cosa significa scimmiottare in napoletano nei confronti di un napoletano? Niente, come se lei mi fa l'imitazione di un veneto, non mi offendo di sicuro, anzi, mi metto a ridere. Va bene, essendo io veneto. Seconda premessa è... Di sicuro Sarri ha sbagliato, è indifendibile dal mio punto di vista, appunto si prenderà la squalifica, non doveva dire quello che ha detto, atteggiamento sbagliatissimo, dentro, fuori dal campo, sono d'accordo sul discorso dell'omertà, sfondiamo questa barriera dell'omertà. Lei, Cruciani, è titolare di questa grandissima trasmissione, si faccia portavoce, come ha fatto nel primo intervento, nel primo blocco, al signor Mancini, di che cosa? Di andare pubblicamente e dire che i tifosi che hanno determinati atteggiamenti... No, ma quello che io rimprovero a Mancini, quello che io rimprovero a Mancini... Di quello che fanno, no, ma quello che io rimprovero... Ad esempio, certo. Allora, ma quello però è una cosa passata. Io dico no, ma lei ha detto bene. No, io dico semplicemente una cosa. Ma non voglio, però, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Non è che voglio dare un colpo al cerchio e uno alla botte, perché non voglio fare il moderato e il democristiano, perché io non lo sono. Ho detto semplicemente che se Mancini fosse coerente, dovrebbe dire quando ho minimizzato la questione dello striscione, quando ho minimizzato le parole di un mio compagno, di un mio giocatore che dava del negro e non so che cosa, sbagliavo perché difendevo i miei colori. Perché qui c'è l'usanza, beh, mi faccio portavoce adesso, che cazzo me ne frega, non è che parlo. Se mi capita, lo dico. Se Mancini ritratta dicendo che Mihajlović deve vergognarsi per quello che aveva detto, doveva vergognarsi, è successo un po' di tempo fa. Continuo a pensare così. Viveva all'epoca. Però Ettore, scusi un attimo, però questo ragionamento lo posso fare io. Sarri o altre persone non possono dire Mancini diceva una volta, eccetera, eccetera. Noi, nel senso di persone che lavorano nell'ambito dei media e chi è sotto i riflettori, è importante per i messaggi che vengono dati alla massa becera di tifosi. Ma non c'è nessuna massa becera qui. Mancini, quando disse quelle cose... Mancini, quando... Scusa un attimo, Ettore. Oddio, ti fermi un attimo? No. Allora, quando Mancini diceva quelle cose, lo faceva perché difendeva i propri colori. Purtroppo c'è l'usanza che succede anche, aspetta, quando si tratta di membri della propria famiglia, magari, no? Quando si tratta di membri della propria città o regione, in alcuni casi. Cioè, si difende anche l'impossibile, l'indifendibile. Ma scusate, però, di che ci stupiamo? Di che ci stupiamo? Diamolo definitivamente e a 360 gradi. Va bene, d'accordo. Di che ci stupiamo quando c'è il presidente della Federcalcio italiana che ha detto tipo e altre cose? Non c'è lo stesso. Allora, squalifichiamo Sarri e squalifichiamo pure da vecchio, dai. Ciao, Luciano da Chieti. Luciano, dimmi. Io vorrei affrontare la questione sotto un altro punto di vista. Non pensare che uno sia l'allenatore dell'Inter e quello dell'allenatore della Lazio, del Napoli, ma due persone adulte, ultra quarantenni probabilmente, di questi due, uno ha dato del frocio a quell'altro. Ma chi? Ma nessuno ha dato del frocio a quell'altro. Uno ha dato del frocio all'altro, non è che... Uno ha dato del frocio all'altro. Allora? A Mancini, no? Ok, perfetto. Ai miei tempi gli rispondevi per le rime. Che cosa dovevi dire? Dammi tua sorella, che dovevi dire? Presentami tua moglie, che dovevi dire? Bravo, ma te lo faccio vedere io se sono pronto. E invece ha deciso di dire tutto davanti alle telecamere, viva Dio! Invece ha fatto benissimo. Ha sbagliato, perché poi ci lamentiamo del fatto che una ragazzina di 15 anni, non riesce a reagire a delle prese in giro sui social e si butta dalla finestra. Proprio per questo modo di enfatizzare, cioè a uno se gli dici gay con un accento non tanto canonico ti additano subito come omofobo, hai offeso la categoria dei gay. Non c'entra niente, Luciano. Mancini ha fatto benissimo a fare questa roba qui. Mancini ha fatto benissimo, perché gli doveva rispondere sul posto Ma che c'entra? Ma sarebbe finito. Ma lì. Perché deve finire una cosa? Se uno ti dà del froce e del finocchio. Ma perché non esiste il problema? Non esiste il problema. Non esiste quel problema. Ma se fosse successo a parte inverse? Se avessi detto napoletani di merda? Se avessi detto napoletani di merda, pezzi di merda napoletani. Tu lo volevi sapere o no? Tutti i tifosi del Napoli che adesso dicono che adesso dico la cosa deve rimanere all'interno. Esatto. Se gli avessi detto napoletano di merda, pezzo di merda, viva il Vesuvio, cosa avreste detto se fosse andato davanti alle telecamere Sarri? Cosa avreste detto? Cosa avreste detto? Vergogna! È uguale, Antonio da Napoli, Antonio, vai. Allora, ciao Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi Antonio. Volevo dire solo che allora, da prescindere che state sbagliato. Allora, e questo lo sappiamo tutti, ha chiesto scusa e per me ha sbagliato Mancini che doveva accettare le scuse. Ma però questa cosa che viene come al solito amplificata, qualsiasi cosa che succede amplificata, a Napoli, a me mi va anche che è amplificata, ma è normale, ne parla tutta Italia perché è il calcio, perché è popolare, mica perché è Napoli. Tutti i giorni, Frocio, capita. E allora qual è il problema? Qual è il problema? Ma il problema lo state creando voi, il problema. Ah, perché c'è il complotto contro Napoli, dici? No, no, lo stai dicendo tu, guarda, la vittima non la voglio fare, lo stai dicendo tu, vedi, non mi togli le parole di bocca. Vabbè, allora? Stiamo a sentire. Allora, voglio dire che state solo esagerando, al finale, sai come va a finire? Che a due giornali Sarri disqualifica e così finisce, però il problema, secondo il mio parere, è che Mancini, che veramente la signora Roberta, come state dicendo pure voi, a finale il problema è la lunga e gli spogliatoi, questo voglio dire. Roberta, perché Roberta? Perché la chiami Roberta? Perché allora è come un bambino alla scuola che va a piangere alla maestra e dire questo mi ha fatto questo e questo e quest'altro. È stato lui. Ma perché lo chiami Roberta? Perché lo chiami allora, Roberta? È perché così si deve considerare, perché è una checca, così lo state dicendo tutti. È una no, checca. Veramente io non l'ho detto. Allora ha dato la conferma a lui perché si è offeso, perché io sentiamo, l'ha detto tu, fino a una persona e lui non ci si sente uomo. Non è offesa, però. Guarda, la realtà è questa, Antonio, fermo un attimo. La realtà è questa, che se tu avessi sentito Sarri andare in conferenza stampa e dire Mancini mi ha detto napoletano di merda, il Vesuvio vi deve seppellire dalla lava, eccetera, eccetera, tutte queste cose orrende che vengono dette spesso nei confronti dei napoletani, avreste tutti applaudito voi napoletani. Tutti applaudito dal bravo e nessuno avrebbe detto le cose devono rimanere dentro il campo, nessuno lo avrebbe detto, avreste fatto diventare Sarri un eroe perché rivela il razzismo di Mancini. E invece Mancini cosa ha fatto? Ha rivelato le piccole miserie di Sarri, le piccole miserevoli cose di Sarri, cioè che ogni tanto gli parte la brocca, perché è già successo una volta, e parla di finocchi e froci a sproposito. Questo ha fatto Mancini, ha rivelato le miserie di Sarri. Bravo. Al contrario, se avesse fatto al contrario la stessa cosa, denunciando un razzismo nei confronti dei napoletani, gli avreste fatto un monumento. Fermi tutti. Grande ritorno alla Zanzara, Parenzo, grandissimo ritorno alla Zanzara dopo tanto tempo, tante citazioni, tanti pezzi mandati in onda, tante battaglie televisive fatte non con noi, con altri. Chi c'è, Juncker? No, ma che c'entra Juncker? No, adesso, so, ma molto meglio Juncker. Di Juncker, che palle, Juncker, mamma mia, so Juncker, che vuoi invitare in televisione Juncker? Sole 24 ore, vuoi invitare in televisione no, Juncker? No, siamo alla radio qua. No, ma tu vuoi invitare in televisione Juncker per così no, muori, così, è, così no, muore, muore il è, programma subito. Non è tra muore. Le mie prime scelte, diciamo. Muore subito il programma. Però pensavo, siccome siamo alla radio del Sole 24 ore, magari Juncker, un esperto di banche, di cose. Entra Mario Di Nolfi, Marione, come benissimo. Stai? Come magnifico. Ciao ragazzi, come va? Oggi? Magnifico. Bene, tu? Beh, oggi. Monsignora Di Nolfi, non più donna, ma monsignore, sale di grado l'ultimo ogni volta. L'ultimo dei peccatori, caro. No, amico, monsignore. Perché lui si definisce sempre l'ultimo dei peccatori, l'ultimo dei peccatori. Cioè, cattolico, sì, per carità, eccetera, però peccatore. Vado a messa, ma all'ultimo banco, capito? Come quelli cattivi. Senti un attimo, quando qualcuno su internet, sul web, come si dice, ti soprannomina Adinolf, l'ho fatto anch'io nei giorni scorsi. Boh, di tutto, insomma. Non ti dà fastidio? No, Adinolf. Ma devo dire che io soffro per ogni insulto, proprio ognuno ne arrivano migliaia. Ah, quindi, soffri? Mi dà sempre un po' di fastidio. Beh, certo. Io una volta Giuliano Ferrara disse vorresti sparare o sparire, e questo è vero, un pochino per due ciccioni poi in particolare, perché molto spesso l'insulto è sul dato fisso, no? Per cui... è sempre una cosa, cioè ti verrebbe da sparare, ogni tanto ti verrebbe da sparare, sparire, queste sono le due alternative. Lo diceva Giuliano Ferrara, una cosa intelligente, però non è vero che ci si abitua, ecco, questo. Allora, Adinolfi, chi appoggia? Nessuno, Sarri, Mancini, ha fatto notare sul, sempre sul cosiddetto web, oggi una roba, che il mondo si è rivoltato per la parola finocchio. Io non la penso come lui, penso che se avesse detto altre cose sarebbe stata la stessa cosa. Comunque, se ti scappa un finocchio succede un casino. Che vuol dire, scusami Mario? Ma io ho detto in una riga e mezzo sostanzialmente che in campo la parolaccia più frequentata è quella blasfema, cioè la bestemmia, sì, porco, in, quello che in sappiamo, campo sì. È, la bestemmia in campo è la regola. Peraltro, da regolamento, la bestemmia dovrebbe provocare il cartellino rosso. Beh, quando uno la sente, però. Vabbè, però siccome viene inquadrata, è iper tollerata. Tu dici, nei confronti della bestemmia c'è una... Questo lo puoi fare. Una sola cosa non puoi fare sul campo di calcio, e l'unica parola che scatena questo tipo di dibattito, diciamo così, è quella parola lì, scappata a un signore molto serio, perché state, insomma, si possono dire tante cose, ma insomma mi sembra una persona... Sì, stranamente dipinto come una persona di sinistra, progressista, operaia e tutto. E credo strumentalizzata anche per finalità, chiamiamole veramente calcistiche. Ora, questa cosa qui mi fa pensare, oggi l'Arcigay ha invitato Sarri alla manifestazione... Sì, che è una cosa ridicola. Che è una... ridico, appunto. No, quello oggettivamente, io sai che non sono d'accordo su molte cose che dici tu, ma l'Arcigay che invita Sarri alla manifestazione del 23... Ma è una cosa patetica, dai. Questa, l'Arcigay, ma non c'ha un cazzo da fare tutto il giorno che invitare Sarri? Anche loro usano le polemiche mediatiche, usano gli stessi strumenti, no? Quindi sono. Beh, no, come dire, però ragazzi, fa capire che c'è una strumentalizzazione. Ma no, c'è una battaglia politica. Fine. Se nel giro di 10 ore sei già al trattamento Barilla, che ti devi emendare, mettere la cenere sul capo e dimostrare andando pubblicamente alla manifestazione che non sei un omofobo, questa è una cosa da pazzi. Anche che io sono convinto che Sarri non sia un omofobo, insomma, con grande nettezza, e che anzi è stato accusato di razzismo, e questa è un'altra cosa interessante. No, infatti la parola razzista non c'entra niente. Esatto, non c'entra proprio niente. Non c'entra nulla. Mancini, la parola che ha detto Mancini, secondo me Mancini ha fatto benissimo a parlare, l'ho detto prima, però oggettivamente quando dice Sarri è un razzista, che c'entra il razzismo? Al limite omofobo, magari non è omofobo, ma al limite gli puoi dire omofobo, appunto, contro i gay, contro i froci. Una confusione. Ma razzismo, perché io non capisco, ecco, questa cosa qua di Mancini, perché ha detto razzista? Perché non sa, evidentemente. Perché non sa, esattamente, perché non sa, e perché però ha capito che quella parola, pur non capendo cos'era veramente, perché infatti lo definisce razzista, però poteva essere utilmente strumentalizzata. Ma perché dietro questo c'è una lobby gay, secondo te, contro Sarri? Adesso si è scatenata la lobby gay? No, ma insomma è scatenata, ho detto, l'hanno invitata alla manifestazione, quindi non è che c'è tutta, però c'è il meccanismo della strumentalizzazione su questo particolare, capendo che in campo veramente avviene tutto, le cose che si dicono in campo sono incredibili. Però è diversa la cosa, dai. Alla finale della Coppa del Mondo ti insultano i parenti e quello sprocca dalla capocciata sullo sterno e diventa un evento pop che ci ricorderemo per decenni, però non puoi dire la parola fino. Però scusa, però Mario è un po' diverso. Qui c'è il comandante in capo che dice a un altro allenatore: Frocio e Finocchio alla fine di una partita, e glielo dice in faccia, sentito da persone vicine lì. È un po' diverso. È uno che va davanti alle telecamere dicendo: quello mi ha dato del Frocio e del Finocchio, rispetto a insulti che si possono dare ai giocatori o rispetto a bestemmie che possono scappare a un giocatore durante una partita. C'è un abisso, non si può dire che è la stessa cosa. Io dico che la frase ovviamente di Sarri è sbagliata, facciamo tutta la litania solita. Il tema è: ma perché da un giorno, cioè da 24 ore, stiamo discutendo di questa tematica? Beh, perché c'è di mezzo il Finocchio e il Frocio? Perché dire scritto Sarri ha bestemmiato, perché il labiale fatto vedere a Sky più o meno tutte beh no sarebbe su sulla bestemmia sarebbe stessa la stessa su, cosa sulla, se non di peggio sì, sulla bestemmia sicuro c'è una partita in quadra qualcuno che bestemmia sempre no campo. Ma sulla bestemmia sempre. Ti assicuro, su una bestemmia chiara evidente sarebbe sulla successo sì, un casino sì, se la dici in Rai durante il programma di punta, nel campo di calcio è tollerato tutto. Cioè tu dici che in Italia si può dire, si no, può sì, bestemmiare sì. Dio in Italia è consentito bestemmiare Dio ma non dire finocchio a Frocio, assolutamente sì, c'è una differenza abissale, cioè ormai si è difeso, sono difesi più i froci. Io posso dirti una cosa, c'è Neymar che aveva una fascetta con sopra scritto 100% Jesus che hanno cancellato dalle fotografie sì, ufficiali visto, quella sì, scritta. Vabbè, ma quello... perché quella scritta non si può mettere, però hai capito, cioè ci sono un po' di cose che fanno pensare che ci sia come dire, un meccanismo di strumentalizzazione che scatta. Cioè, no, tu hai, dillo chiaramente, Mario. Cioè, veramente... secondo te sono più protetti in questo momento, più, sono più difesi gay di Dio. Esattamente, no, il meccanismo. Ma, per cui io scrivo questa riga e mezzo, poi se venite sulla mia profilo Facebook o sulla mia pagina Twitter, io becco decine di persone che vengono a bestemmiare, centinaia di persone che blocca, in nome del no alla discriminazione dicono che io sono un ciccione. Questa è la cosa più divertente, capito? Questa Vabbè, è la cosa più allucinante. Fermi tutti, c'è la pubblicità, poi torniamo con Mara Di Nolfi perché parliamo ovviamente qui, grande battaglia, utero in affitto, compravendita secondo lui di bambini, orrori, eugenetica, non so che cosa, adozione gay, a tra poco. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. La Zanzara. Più puttane meno Di Nolfi, più puttane meno Di Nolfi, più puttane meno Di Nolfi, grazie. Messaggio arrivato alla nostra pregiata segreteria telefonica 393 71 71 701. A voi allora, piace un mondo così? Mi hanno mandato un mi hanno mandato una foto con non so se sia vero o no, un fotomontaggio, ma credo un montaggio, con un mercato, un alimentari, un venditore di frutta in cui ci sono c'è un contenitore con dei finocchi dentro con scritto 5 mancini 2 euro, 5 mancini 2 euro. E basta, c'è Luciano da Napoli, poi torniamo con Di Nolfi, però voglio sentire Luciano, Luciano da Napoli, Luciano. Vai Luciano, pronto? dimmi pronto? Caro, dimmi. Ciao, ciao. Io chiamavo perché io ho sentito e hai detto che Sarri ha detto Finuccio, che voleva intendere secondo me, come dici tu, femminuccia, fighettino. E lui si è secondo riferito. Me voleva dirgli una cosa del genere, ma io interpreto, secondo me voleva dirgli femminuccia, fighettino, perché a Sarri gli rode il culo che Mancini veste meglio di lui, magari, perché a Sarri rode il culo che Mancini è uno osannato e invece lui è dovuto partire dal basso e non l'ha considerato nessuno fino all'anno scorso. Ha un problema di rivalsa sociale, probabilmente, che ha tirato fuori in questo modo. Secondo me è una mia interpretazione. Il problema è che Achille è una checca represa. Ma chi è una checca? Mancini. Ma che cazzo ne sai tu? Bene Antonio che ha detto Roberta. Ma che ne sai tu? Che ne sai? Chille è una checca repressa. E allora una volta che perché che c'entra che tu napoletano, cioè quello chiama e dice che Sarri dice hanno detto ai napoletani pezzi di merda, cose è la stessa noi l'avremmo sannato. Premesso certo, avesse detto penso... se Mancini avesse offeso Sarri dicendogli napoletano di merda, viva il Vesuvio, sarebbe andato davanti alle telecamere, no, Sarri, e sarebbe stato osannato da tutti. La carriera di Sarri, qualcuno non gli ha mai detto niente, secondo te? Ma non lo so, magari, ma non è che è pieno di gente che va in giro a dire Froce e Finocchio, ragazzi, ma di che parliamo, no, dai? Ma in un contesto di calcio. Ma io non ho capito la cosa, perché hai detto, perché hai detto prima Mancini una checca repressa? Non ho capito. Secondo me è una checca repressa. Secondo te è una checca repressa? Ognuno ha una sua. Lo dici anche così, è una checca repressa come una cosa. Ma proprio con disprezzo. Con disprezzo lo dici? Sì, perché per te. Perché le checche, essere checca è una cosa negativa. Ma fa l'uomo. Fa l'uomo. Fai l'uomo. Fai l'uomo, invece ha fatto la checca. È una checca proprio, ma proprio repressa, secondo me. Repressa, perché essere checca che significa secondo te? Cosa? Essere checche, secondo te? Essere checche, essere checche. Il problema di essere checche è represso. Ma che vuol dire essere checche? Spiegami. Luciano da Napoli. Gay, ma a Napoli si dice riccione. Riccione, ma perché? Cosa significa per te essere debolucci, femminucce? Che significa? Non ho capito, scusa. Che significa per te essere checche, femminucce? Che vuol dire? Essere un po' deboli, essere un po'... sai, quel tipo che... A parte il fatto che questa gente vive in un mondo dorato. E non ha proprio idea. Ma chi vive in un mondo dorato? Chi? Sì, perché se una persona si inasprisce, si innervosisce, non lo so, per una parola di Finuccio, mi sembra un po' eccessivo secondo me. Scusa, ma io non ho capito, Luciano, secondo te la parola checca, che vuol dire alla fine? Uno debole, uno femminuccia, uno... Dipende da come lo dici. E tu lo dici con disprezzo. Tu lo dici con disprezzo. Come lo dico io è gay. Ma non è che ho un disprezzo per i gay, ci mancherebbe, per no, l'amor di Dio, per carità, per no, Dio. Quando dici che è carepressa non hai un disprezzo. Però per i gay io ho diciamo, come ti posso dire, ce l'ho questi che carepresse perché sono pericolose, le checche represse sono pericolose. Luciano da Napoli, che vuol dire le checche represse sono pericolose? E te lo sto dicendo perché per non l'ho nulla, capito, per amico mio, fanno succedere questo casino. Ma perché non esistono gli eterosessuali repressi? gli etero repressi non esistono. Qual è la differenza tra gli etero repressi e le checche represse? Non ho capito bene. Che non fanno di queste cose. Ah, le checche represse. Mi hanno toccato, cioè mi i frocetti, hanno detto, tu dici fatto. I frocetti repressi. Frocetti, quelli... fighetti, sai, questa gente così. Frocetti, sì. Fanno, che fanno. Ha, che non sa che cosa significa stare per strada, per la vita dura che c'è. Non significa, non hanno idea, che, non ha idea di che cosa significa essere uomini, uomini, uomini. Bravo, come si dice? Uomini. Secondo me sì, uomini con le represse. Esistono uomini e caporali. Siamo uomini o caporali? Bravissimo. Questo, i caporali sono le checche. I caporali sono le checche, diciamo, no? E gli uomini sono gli uomini. Luciano da Napoli, ciao. Caro Marione, hai visto? Hai sentito, caro Marione? L'amico Luciano da Napoli. Non chiare le idee anche. È un ambiente degradato, dai, un ambiente. Allora, degradato. Io voglio capire una cosa, caro Mario, perché tu pensi? Io sono su posizioni, come sai, completamente diverse. Iniziamo dalla prostituzione, molto rapidamente abbiamo già dato sulla prostituzione, però ti ho sentito dire delle cose in cui sei completamente d'accordo con Parenzo. Per esempio, hai dato anche tu, credo, dei miserabili come Parenzo a quelli che vanno a prostitute. Dici no, addirittura no, no, io lo dico. E chi sono quelli che chi sfrutta le donne e le paga è un miserabile. Ma vabbè, secondo te... rispetto a un fenomeno sociale che ho davanti agli occhi, perché mi dite che ci sono 9 milioni di clienti prostitute, cioè, ci sono due risposte possibili da dare, anzi tre. Uno è delle cose come stanno, la leviamo questo tipo di opzione. Poi c'è l'opzione mettiamo le ragazze in vetrina come in Olanda, perché è una proposta, e l'altra proposta, quella, la mia, è facciamo invece come in Svezia, dove il cliente viene punito e dove con questa attività... No, ma per te bisogna mettere nel pubblico cliente, ludibrio, ha detto, pubblico ludibrio. Come in Svezia, con questa attività voluta dalle femministe svedesi che sono riuscite a vincere una battaglia trasformandola in legge questa pratica, e che succede? La prostituzione si è drasticamente ridotta. In Olanda, con il vostro metodo, la prostituzione e la tratta delle donne è aumentata. Vai, a parte che bisogna vedere nel lungo periodo, dati, adesso poi vediamo. Sì, però tutto, Mario, allora, che cosa significa? Questi tutti sono i dati. Secondo te, quando qualcuno va a prostitute, se viene pizzicato, bisognerebbe mettere la foto sul giornale. No, sul giornale, per strada. Avremmo manifesti. La difficoltà nel contenere i giornali, ma sicuramente se è inviata una multa molto salata, andrebbe inviata a casa alla famiglia, e vedete che siccome è molto... Convocata la moglie, magari? Convocata. No, ma basta, guarda, basta una bella multa a casa resa con evidenza, con consegna da parte della Fortello. Ah, con evidenza, con scritto è andato a prostitute. È andato a prostitute. Io penso che se ti arriva un carabiniere a casa e ti porta un foglio, ti chiedono. Ah, il carabiniere a casa con evidenza scritto sopra è andato a prostitute. Assolutamente sì. Ed cioè, è cliente di prostitute. Noi siamo, ma come siamo si può? D'accordo sul principio che la prostituzione va combattuta. Ma invece i bordelli, diciamo, ma invece i bordelli, la legalizzazione dei bordelli non ti va nemmeno contro. Sei contro. Sono quello io sono sei contro. Io tu vuoi eliminare la cioè tu vuoi eliminare la prostituzione in pratica. Voglio combatterla. Combattere la prostituzione. A me piace combattere cose che sono sbagliate. Cioè, ma ho capito, ma combattere la prostituzione è come dire voglio combattere contro le stagioni. Cioè voglio combattere contro un modello sociale che funziona, tutto qui, che funziona molto meglio. Guarda, c'è una sola... Ma scusa, ma se uno vuole andare a prostitute e non può fare meno di andare a prostitute, che fa? Si fa le seghe, che fa? No, accetta la sanzione. No, ma ho capito, ma che fa? Si fa le seghe, che fa? Cioè, come fa? Accetta come fa? La sanzione, cosa fa? Sfoglie, pare, dopodiché... Per sfogarsi, se uno si vuole sfogare e vuole evacuare, come si dice, no? Vuole sfogarsi, ha questa pulsione, non riesce, non gli va, vuole andare a prostitute, che deve fare? Oppure accetterà la sanzione che ne deriva. Sicuramente non accetterò mai che mi spiegate che usare il corpo di una donna pagandola sia un bene. Ma non ho detto, spiace, a parte che per me è una cosa normale, a parte che per me è una cosa assolutamente normale. Cioè, ma, non, è un, ma ti metti una quando non è schiavitù, quando non è schiavitù è un... Ma è sempre schiavitù, ma che dici? Hai una figlia, ma che c'entra? Non la cosa che dicevo io sulle mie figlie. Ma se tua figlia ti dice io voglio fare di mestiere la prostituta, ma tu appunto. Dici va bene. No, ma non lo so, ma è diversa la cosa, dai. Non è diversa, ha ragione. Ma non c'entra niente, io non lo so. È questa la cosa. Giuseppe, no, non è questa. Ma che c'entra? Tutto, ma che c'entra la figlia? Cambia. Ma che c'entra la figlia? Ma ha ragione. Così capisci che nessuna donna, nessuna al mondo accetta di essere violata, nessuna al mondo. Ma che c'entra? Ma c'è una scelta, spesso quando è una scelta, anche una scelta per denaro. Se ti dicono che l'hanno scelta, la tua figlia te lo viene a spiegare. E vabbè, se vuole fare la prostituta, facesse la prostituta. Ma ho capito, ma non me. Non... Ma no, diventeresti talebano, Giuseppe. Ma qua, qua quando mai? Ma assolutamente. No, cercherò di. La barba. Cercherei di convincerla in tutti i modi che non va fatto. Ma quello. Ma no, ma e perché lo faresti? Perché capisci che è... Allora, è sbagliato. È una cosa violenta. Ma che vuol dire sbagliato? Non c'è niente di sbagliato. Non c'è nulla di. Ma no, vendere il proprio corpo per denaro è la stessa cosa. Vendere il proprio corpo per denaro, o vendere la propria penna, o andare a parlare alla radio è la stessa cosa. Ma perché nessuno. Se, scusa, ha ragione, se nessuno, per i nostri figli è la non, stessa lo, cosa. Non lo vorremmo questo. Ma quello è un altro discorso. Immediatamente. Basta pensare a tua figlia che ti viene a dire: voglio fare la giornalista o voglio fare la prostituta. Ma questo e non c'entra. Ma che reazione avrai? Ma, no, ma quello è normale che te lo dico. Ma cosa significa? Ma non c'entra nulla. Che capisci la differenza, Giuseppe. Ma certo che c'è una differenza, ma questo non vuol dire niente, però. Tra il bene e ciò che non è bene per tua figlia, cioè per il mondo, poi, perché quello che vale per i nostri figli vale per il mondo. Ma scusa, per esempio, passiamo all'utero in affitto al nazismo? Mamma mia, l'utero in affitto. Oggi sono contento perché dopo due anni in cui mi hanno detto di tutto, molti senatori del PD hanno firmato un emendamento che chiede 12 anni di carcere per chi ricorre all'utero in affitto anche all'estero. Ah, è la battaglia di una vita che diventa realtà. Ma beh, una follia. Una follia, una follia totale, totale. È un do ut des, è un do ut, è un do ut des. Tu hai bisogno di soldi, hai bisogno di, allora anche l'adozione si compra qualcosa, anche con anche l'adozione si paga. Anche l'adozione si paga. È uguale, sempre un bambino viene fuori, sempre un bambino viene fuori. No, perché un bambino in condizioni di estrema difficoltà, abbandonato dai suoi genitori, per cui due persone non sempre è così, ci sono vari a disposizione di quella sofferenza, e invece che è una cosa un po' diversa di andare a prendere una schiava. Ma chi l'ha detto che è una schiava? Chi l'ha detto che è una schiava? Chi l'ha detto? Il senatore lo giudice è andato in Canada. Il senatore lo giudice è andato in Canada. Quelli sono casi da 150.000 euro di tariffario, che sono, ti assicuro, rispetto al mercato dell'utero in affitto, l'estrema minoranza dei casi. L'estrema minoranza. Guarda, quando è regolamentato, si va a schiavizzare. Ma che schiavizzare una donna? Ma quando mai? È un do ut des. Io prendo dei soldi, ho dei soldi, faccio campare bene, faccio campare bene un'altra persona che mi dà un figlio. Punto e basta. Dai, su. Ma un bambino diventa oggetto di una compravendita. Vabbè, ma ci sono tanti compromessi nella vita, ci sono tante compravendite, ci sono tante, perché secondo te non è una forma di egoismo? Non è una forma di egoismo avere un bambino? No, è un dono, è un meraviglioso dono, e lo sai pure te, sai pure no qui. Ma che c'entra, ma è anche, ma è anche una forma di egoismo, è anche una ma anche una forma di egoismo, assolutamente. Secondo te il sesso, no, il per esempio il sesso tra due uomini o due donne, che cos'è? Qualcosa di innaturale, come lo trovi tu il sesso? Tra... se io a De Falo facesse, guarda Giuseppe, sto giochino non siamo è un giochino di tutti e tre, no, a me quello che fanno non me ne frega proprio niente, non te ne frega nulla, ci avranno un istinto, ci hanno una cosa, gli va, insomma, io non l'ho capito, non provo quel tipo di no, neanche curiosità. Non provi la curiosità, è d'accordo, non sei curioso, invece sono curioso, per esempio. Ma tu invece non sei curioso, vabbè, non sei curioso. Ma perché ti sei fermata la curiosità, Giuseppe? Eh no, magari ho provato e non te lo dico, e lo dirò, prima o poi lo dirò. Aperti tutti, allora, lo dici tutto. Ma perché non si può provare? Verità. Non ho capito, non si può provare. Faccelo sapere, sei uno scoop clamoroso, però dai. No, ma scusa, no, non ho provato nulla. Per adesso non hai provato nulla. Non ho provato nulla, però sono curioso, cioè sono curioso, non lo escludo. Questo non lo escludo, cioè non lo escludo, non escludo di avere un'esperienza omosessuale, ma perché anche tu non lo dovresti escludere, anche ma tu io lo escludo invece. Ah, tu invece no, lo escludi, io lo escludo, tu io lo escludo. Voi due lo escludete, bravi. Beh, sì, lo escludete. Ma no, bravi, ma io non ho capito che significa l'istinto. Scusa Mario, che significa l'istinto, però scusa, questo adesso si fanno per istinto, credo, no, però dici loro hanno questo istinto, io non capisco questo istinto, perché non capisci? Io non ce l'ho, quindi non lo capisco, non ce l'ho, non lo riesco a capire, cioè per me è una cosa, cioè la sodomia per te è una cosa, è una cosa innaturale, la sodomia? Io non l'ho mai subita, quindi sì, la questione è molto innaturale. No, la sodomia è innaturale, cioè anche praticarla, Beh, non avendo questo enorme desiderio di subirla, cioè chiaramente per me è qualcosa di innaturale. Comunque, per il catechismo della Chiesa Cattolica, usando proprio... Cioè per te è innaturale la sodomia, è un disordine, cioè la sodomia... Cioè lo dico io, questo è per il catechismo. No, ma tu, io voglio capire, Dinolfi, non te, che me frega il catechismo. Io personalmente non ho questa curiosità, non ho questo istinto, evidentemente per me è innaturale, sì, non mi viene naturalmente l'idea di fare una pratica del genere, non ho la tua curiosità... No, ma non la pratica di subirla, anche la pratica di farla, anche farla con una donna in modo eterosessuale, questo dico. Ho sempre preferito, diciamo, il rapporto totalmente naturale. Cioè, perché lo trovi innaturale questo? Lo trovi innaturale? Beh, lo è. No, ma lo è, lo dici tu che lo è. Per me non lo è, abbi pazienza. Cioè, per me non lo è, è una cosa naturale nel sesso, la sodomia. Però cioè... ti sei fermata alla curiosità, evidentemente. Ma non la curiosità, ma io sto parlando del rapporto etero. Etero. Nel rapporto etero, la sodomia è una cosa normale, non è innaturale. Se dici che è innaturale, siamo alla follia. Cioè, se tu pensi che, come hai detto, che la sodomia è innaturale, beh, amico mio, sei nel mondo della così. Non è un, io l'ho già detto che non è un istinto che provo. Vabbè, non è un istinto che provi e lo trovi anche innaturale. Vabbè, d'accordo. Come, e lo troverai innaturale pure la masturbazione, che ne so. Cioè, lo, cioè perché viene pure quella viene condannata dalla chie, dalla, dal Vaticano, non so da chi, insomma, dalla dottrina, diciamo, no? Cioè, ci sono elementi istintivi che sono sicuramente più evidenti e che hanno attraversato l'esperienza di tutti, altri elementi che francamente considero sì, cioè la... non lui ti dice che il controllo delle pulsioni è una cosa dell'uomo, pulsioni, lo contraddistingue ragazzi, dall'animale. No, nel caso della masturbazione, ad esempio, chi crede pensa che il controllo delle proprie pulsioni, cioè, dispersione dei propri istinti, dello sperma, dispersione... sia il massimo della, come dire, dell'esaltazione dell'essere uomo, cioè dell'essere una persona raziocinante. Questo dice chi crede. Poi dopo tu non ci credi, masturbati fino a quando ti pare. Anche adesso. Ma io non ho credo. Veramente Mario, pensi che la masturbazione sia contro natura? Ma no, ma chi crede pensa questo? Io penso, ha detto bene Davide, che controllare le proprie pulsioni non sia per niente un male, e che poi esiste una grande cosa che è il piacere sessuale, che si esplica in via naturale, che è una cosa bellissima, straordinaria. E invece la sodomia no. E certi istinti, francamente, non li vivo come una grande mancanza, non avendoli praticati. Non avendoli praticati e considerandoli come considera la Chiesa una specie di cosa innaturale. Vabbè, io questo non, francamente non lo capisco. Nel un senso, disordine. Un disordine addirittura, un disordine. Lo diceva anche questa l'espressione del catechismo. Sì, certo. Io voglio capire una cosa, ma ti pare normale che in Italia, in intere regioni, ci siano gli obiettori all'aborto? Cioè, ti pare normale sarà, che... E sarà possibile obiettare pure questo. Ho capito, ma c'è una legge... Degli ospedali pubblici, sai? Ma, c'è una legge che ti garantisce che devi abortire, che puoi abortire o devi, che puoi... Io non ho ancora incontrato una persona che dice non sono riuscito ad abortire. Questo, francamente, penso che risolva la questione alla radice. Cioè, ma secondo te andrebbe cancellata quella legge? Ma, insomma, nel mio mondo ideale sì, poi sono una persona che conosce la realtà e quindi... Cioè, secondo te in Italia dovrebbe essere proibito abortire? Cioè, sarebbe meglio se ci fosse la proibizione all'aborto? Sarebbe meglio. Sarebbe meglio se la cultura della vita fosse premiata da. È d'accordo, è d'accordo. E dunque, se si potesse vivere in un mondo dove la 194, insomma, una legge sull'aborto non esistesse, saremmo tutti meglio. Cioè, saremmo sicuramente. Nella mia bacchetta magica, le donne partoriscono, non ammazzano i bambini. Il senatore Lo Giudice ti fa orrore come persona? No. Non ti fa orrore? No, nessuna. Io non provo nessuna difficoltà, io subisco molto attimo, ma non ho odio per nessuno, e neanche per il senatore Lo Giudice. Io capisco profondamente la sua volontà di avere un figlio. Però il desiderio non è mai un diritto, meno che mai quel figlio che si vede sulla carrozzina, eccetera, lo consideri un infelice? No, perché non è un problema. Crescerà infelice? Non credo neanche questo, non è un problema di come cresce, è un problema che quel bambino, come tutti noi, a un certo punto farà una domanda precisa e dirà: chi è la mamma? Chi sono, quali sono le mie origini e chi è mia madre? E questa domanda. Ci sono leggi che prevedono che qualcuno gli dirà: sei nato in Canada da una madre. E non la trovi una cosa che, insomma, non la trovo ingiusta. No. Camperà bene lo stesso. Con problemi, certo, potrebbe essere un problema, come ce ne sono tanti altri nella vita dei bambini. Ma ce ne possono essere tante altre. Succede pure che le madri muoiono. Ma quando muoiono la considero una grande disgrazia. Assolutamente. Quello che tu non capisci, tu non capisci, considerando l'utero materno come fosse una fabbrica, diciamo. Ma io non ho detto questo. Non capisci la differenza fondamentale che c'è tra adottare un bambino nato, un grande atto d'amore, e il fatto che una donna, spesso schiava o poverissima, perché non penso che le donne amici ricche miei di hanno Manhattan, aspettato, hanno di Manhattan, amici miei hanno, che conosci benissimo, non voglio fare grembo, i nomi e non voglio tiene fare un i nomi. Grembo per 9 mesi un bambino, sapendo che poi una volta che lo ha cresciuto per 9 mesi lo venderà. Allora, amici a un miei, altro. Amici io miei, io penso che questo benissimo. Succede negli strati amici più bassi miei, della società. Amici miei che tu conosci benissimo e di cui non voglio fare i nomi, hanno praticato un'altra cosa, che hanno fatto partorire una ragazza che non voleva tenere il bambino, insomma, non... come nel film, non mi ricordo come. Giuno. Questa ragazza qui, Giuno, esatto, questa ragazza qui ha tenuto in grembo un bambino per 9 mesi e dopo lo ha dato, dopo un mese, a questi qua, perché non si poteva permettere di mantenerlo. Questa non mi pare, questo bambino cresce con amore, poi saprà chi è la madre, mi pare l'intenzione iniziale che ci fosse siano quella scompensi di tenerlo questo bambino, no? Ma sì, sarà durata poco, poi ha detto siamo troppo giovani, non possiamo mantenerlo, ecco, e lo hanno dato ad altre persone. Non c'è però l'intenzione. Scusa Mario, non è un errore questo, Mario, è un errore di una madre, non è una fabbrica. Guardate, il punto di vista è solo uno, è un errore, non è un errore. Il punto di vista è il bambino, voi lo provate a vabbè, cioè, ma io, figli tutti e tre, io no? Lo conosco per abbiamo adesso, ho capito. Ma quel cavolo di bambino, quando tu dopo un mese, 2 mesi prendi e gli stacchi la mamma, ma davvero non, per voi è niente? Non ho detto che non è niente, ho detto semplicemente quello, quel trauma che va a vivere un ragazzino, cioè, boh, io non so, no, dopo un mese veramente succede, così tranquilli a dire, ah, che dopo bello, un mese, due mesi, non ho detto ma bello, certo, non ho detto bello, ho detto che non è bello, vuol dire che è brutto, no, non è, succede, può succedere, sì, ci sono cose belle e cose brutte, dopodiché noi dobbiamo decidere quando si fanno le leggi, se vogliamo incentivare le cose belle o le cose brutte. Questa è la brutta legge che incentiva cose brutte e quindi secondo me va osteggiata. Va bene, ciao Mario, a presto. A presto, piazza, ciao. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. La Zanzara. Bisognerebbe levare dalle scuole l'ora di religione e mettere 2 ore di Zanzara. Caro Parenzo, per qualche giorno grande rubrica. Com'è il prefisso di Napoli? Com'è? 081? Com'è? 081. Chiama Napoli. Tutto in diretta, eh? Chiama Napoli 081. Esposito. Pronto? Pronto. Pronto, buonasera. Pronto, Napoli? In chi è al telefono? Ma non vi vergognate, Finocchio, Frocio. Bullezza, è tutto Nord Italia. Perché Nord Italia? Che c'entra Nord Italia? Questa è andata male. Fatemi un altro numero di Napoli, vai. Chiama Napoli 01. Sì, che è? No, no. 01. 081, 081. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Qui in Nord Italia. Pronto, buonasera. Pronto? Vabbè, cambiamo spartito, dai, cambiamo canovaccio, sì, Nord Italia mi è venuta così, cambiamo canovaccio, dai. Pronto? Sì, pronto? Sì? Sì, volevo sapere se vi vergognate per Finocchio e per Frocio. Perché lo stai dicendo? Beh, allora posso dirti Finocchio, Frocio. Ah, ma se io non se lo facessi Finocchio non mi interessa proprio. Perché? No, ma Finocchio, Frocio, posso dirtelo tranquillamente. L'ha detto l'allenatore del Napoli, allora lo posso dire. Finocchio, Frocio. Ma perché stai appellando su quello che ha detto l'allenatore del Napoli? Eh sì, certo. Ho capito. Ma bisogna vergognarsi un po' o no? Ma dipende. Ma bisogna vergognarsi anche dei razzisti quando veniamo noi al nord e ci sono i cori razzisti. E anche che voi c'entra? Dovete vergognare. E che c'entra questo? No, è la stessa cosa. Non è la stessa ma cosa. Ma quale stessa cosa? Ma si vergogni, ma quale stessa cosa? Allora, Gabriele dalla provincia di Lucca. Gabriele dalla provincia di Lucca, dai. Ciao, dimmi, buonasera. Dimmi. Senti, volevo intervenire, vorrei fare prima un appunto sulla questione che state parlando di Sarri e Mancini. Allora, so che magari non siamo molto d'accordo e te, io sono d'accordissimo sulla la polemica che è sorta, perché se passa il principio che vabbè è una ragazzata, è una cosa da campo, eccetera, come dicevo oggi a delle mie amiche che mi dicevano la stessa cosa, perché uno quando si altera può tranquillamente dire queste cose, perché tanto è normale, cioè non c'è nulla di grave, sì. Allora io posso dire tranquillamente a loro quando mi incazzerò domani, puttane e troie. È lo stesso principio. Sì, sì, ma certo, ma è uguale. Non è che se uno dice il modo in cui l'ha detto, cioè frocio finocchio, è come dire a una puttana troia, perché lo voleva insultare, cioè lo voleva dileggiare, lo voleva prendere per il culo. Non è che gli ha detto finocchio e frocio come un'espressione qualunque, come lo possiamo utilizzare noi. Io ogni tanto utilizzo la parola frocio, ma la utilizzo in un modo, tra virgolette, gentile. Cioè, quindi è bene che sia sanzionato. Non in senso per questo motivo. Vabbè, allora? E poi volevo, se mi permettete, volevo fare un intervento su un'altra polemica che è sorta oggi relativa a quel ristoratore che ha posto il cartello sul divieto di accesso ai bimbi nel ristorante. Io sono totalmente d'accordo. È l'ora di farla finita con queste ipocrisie, anche oggi dalla D'Urso, queste polemiche ipocrite, i bambini, bisogna difendere i bambini. Ma che cavolo, quando uno va a mangiare fuori deve avere il diritto di stare tranquillo. E quindi, come ci sono ristoranti vegani, come ci sono ristoranti dove i cani possono entrare, è giusto che ci siano ristoranti dove uno possa andare senza avere dei marmocchi che rompono i coglioni in continuazione. No, ma io sono d'accordo con te, perché ogni ristorante, no, ma io sono assolutamente d'accordo. Sì. Un ristoratore può far entrare nel suo ristorante. Intanto è un esercizio pubblico, attento, eh. Sì, d'accordo, no, ma se tu non vuoi, taxi. Ho capito, ma quando sali in taxi, non è mai successo, diciamo, non un taxi, un altro, come se in autobus a un certo punto dici no, guardi, quel bambino lì rompe le scatole e piange. Non, a me è capitato tante volte in treno, ad esempio, quando stavo andando a Padova a trovare i miei col bimbo piccolo di 2 anni, che persone dicono no, ma piange. Dico, e quindi cosa vuol dire che piange? Certo, un bambino che piange, lei invece rompe i coglioni, guarda, no, un po' la differenza. Però, allora, ho trovato a litigare con una signora che continuava di me, il bambino piange. Dico, per forza, 1 anno e mezzo, perché per forza piange. Sì, no, ma vabbè. Lei perché viaggia col treno? Ma dico, e lei invece no, ma questo è ridicolo. A me non mi è mai capitato qualcuno che si lamentasse, anche perché mia figlia ha sempre pianto poco, ma non è quello il punto. Cioè, il punto è che ognuno ha il diritto di esporre esercizi pubblici, ho ragazzi, hai il diritto di far entrare poi, chi vuole, puoi fare un locale dove entrano che non entrano gli ebrei, quelli dai, con i capelli bio. Ma non ha detto che non entrano gli ebrei, sto ricordando semplicemente che siccome sono servizi pubblici, l'esercizio pubblico non ti può vietare alcune categorie, non può vietare alcune categorie di entrare, sto solo ricordando questo, poi cambiate la legge se mai, va bene, ma non è detto, a parte che non credo che sia una cosa contro la legge, è un esercizio pubblico, ma non credo, lo so se contro la legge, ma è un esercizio pubblico e ha l'obbligo di far entrare chiunque. No, uno può dire io nel mio ristorante non voglio passeggini, non voglio bambini sotto i 5 anni perché fanno casino, fanno rumore, la gente si lamenta, eccetera eccetera, voglio un posto dove non ci siano i bambini mezzi coglioni. E questo qua, francamente, ha ragione Gabriele, è legittimo. Se uno non vuole, uno può scegliere la propria clientela. Io voglio avere persone che si possono permettere un conto da 200 euro. Vabbè, questo cosa c'entra? È la stessa cosa, cioè metto i prezzi a 200 certo. euro perché voglio un certo tipo di clientela e non voglio i bambini con i passeggini, non voglio i cani, non voglio i gatti. Siccome, voglio dire, non è che succede in tutti i ristoranti, se succede in un ristorante non rompete i coglioni, ognuno si sceglie la sua clientela, dai, su. Ma chi ha detto che il casseggio non è serietà? E Pulcinella, te lo ricordi, diceva casseggiando. La Zanzara. Pago tutto quello che volete se mi fate fare un tiro della marijuana della Zanzara. Aspetto, fra un mese, quando sarà. Un tiro solo. Non c'è illegalità fino a che la pianta non ha sviluppato il THC. Quindi piantarlo, farla crescere, non ci sono problemi. Quando maturerà e sarà presente la sostanza stupefacente, potreste incorrere nel reato. Oh raga, non fatevi arrestare, vi prego, non fatevi arrestare. Viva la piantina di ganja che verrà piantata negli studi della Zanzara. Legalizzatela, legalizzatela. She comes. Oh, Parenzo, adesso ti devi incazzare con questo comandante, allora. Attento, eh? Sì, sì, facciamo subito. Ma il titolo del TG della 7, stupendo, sì, del sì, grande dimmi. Chicco. Senti come dice, grande per introdurre Chicco, il caso. Ma che grande Chicco? Ma che è sta leccata di culo? Mentale. Altro che il titolo, mamma nei titoli mia. L'ha messo. Guarda come l'ha messo. Grande, no, questo Chicco è figo. Altro che stepchild adoption e unioni civili. Nel sì calcio siamo ancora a Frocio e Finocchio. Certo. Nei titoli l'ha messo. È cavernicolo, certo, dimmi ha fatto se non benissimo è divertente come l'ha fatto bene, sì, certo. Dicevo. Altro che stepchild adoption e unioni civili. Nel calcio siamo ancora a Frocio e Finocchio. Bellissimo. Prezzemolo e Finocchio, tra l'altro, com'era? No, quel, il titolo sì, del sì film con Baffi. Occhio malocchio, prezzemolo e Finocchio. Però lui l'ha messo nei titoli, cioè dice altro. Qui si parla di stepchild adoption e unioni civili. Nel calcio sì, siamo, ma sì l'ha messo senza quell'ipocrisia che generalmente i giornali di F siamo puntato. Siamo messi a Frocio siamo e Finocchio. Siamo messi ancora, aperte virgolette, Frocio e Finocchio. Vabbè, fatti passare il comandante, vai. Fatti passare il comandante lì al ristorante La Fiaschetta del Pesce. Fraschetta. La Fraschetta del Mare, scusa. Fraschetta del Mare. Del Pesce. Del Mare, del Pesce. Ne dicesse una giusta. Del Pesce. Sì, Fraschetta del Pesce. Incredibile. Vai. Casalbertone, Roma. Posti dove non andrai mai tu. Posti del popolo. Non sono stato a Casalbertone. A causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione, in questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di anni 5, nonché l'ingresso di passeggini e o seggiolini per motivi di spazio. Certi della vostra comprensione, si ringrazia anticipatamente la gentilissima clientela, il comandante, con il divieto con la faccia del bambino, la passeggino e non un'altra cosa che non so che cazzo è. Ma è un ristorante questo o no? Allora, Giuseppe, provincia di Ancona, vai. Pronto, Giuseppe? Dimmi, Giuseppe, dimmi. Ciao, finalmente un oiesino che ho visto nascere Mancini. Ah, sei di Iesi, dunque Mancini. Di Mancini, lo sì conosco troppo bene. Sì. È un bravo ragazzo Mancini, venuto dal nulla. Allora? Più io avevo bisogno di un'altra cosa. Vabbè, oltre a dire che Mancini è un bravo ragazzo, eccetera, che vuoi dire? Volevo dire che sicuramente non è Frocio. Beh, sicuramente non è Frocio, ha tre figli, come questo non vuol dire niente, è pieno di Frocio con tre figli, ma a me non me ne frega niente se è Frocio o è omosessuale. Mi meraviglia che sua mamma è napoletana. La madre di Mancini, ma è napoletana. C'entra? No, ma questo è curioso, non c'entra però nulla però. La signora Marianna o di Salerno o Napoli. Sì. Mi sembra che sia sotto la provincia di Salerno. Sì. Ma cambia qualcosa della sostanza? Ah no, è interessante, allora? È curioso, no? Siccome tutta Napoli insorge contro Mancini, adesso Mancini ha una mamma napoletana o comunque campana, quello ma, che dice. Ma Giuseppe, pronto? Dimmi. Io lo conosco bene perché l'ho visto nascere, mi ricordavo a scuola fino a 14. Vabbè, ci stai dicendo che non è Frocio, però io ti ripeto, non me ne frega niente, anche se lo fosse non cambierebbe nulla. E comunque qualcuno dice, siccome si è offeso, allora gatta cicova, diciamo, no? Abbiamo sentito da qualche ascoltatore. Ma tutto nella vita tutto può capitare, però lo escludo. Va lo bene. Escluderei categoricamente. Va bene, Giancarlo da Brescia, vai Giancarlo. Ciao. Dimmi Giancarlo. Per dire una cosa, sono dell'Inter, ma ce l'ho col Manchester. Allora, Sarri può dire quello che vuole. Non sento nulla. Davide dalla provincia di Matera, dai. Ciao. Ciao Davide, dimmi. Senti, io sono d'accordo con voi, con te e Parenzo, sul fatto che insomma Sarri ha fatto una cazzata, sul fatto che l'omertà del calcio sia ormai da superare e tutto. Meno però male, volevo sì ricordarvi. Ma non è che sia da superare, cioè non è che meno debba male per forza, non è che si debba dire tutto per forza, ma quest'idea che era meglio tenere tutto all'interno del sì, campo, sì. La non si, quello che succede lì non si deve dire. Adesso ci sono moltissime persone di Napoli incazzate con me, vedo anche dai famosi social siti di napoletani, perché ho fatto il paragone con Cutolo. Ho fatto il paragone con Cutolo. Ripeto per l'ennesima volta, ho detto Sarri quando parla di omertà, ma lo posso dire di chiunque, mi sembra Cutolo. Il riferimento a Cutolo è semplicemente la camorra a Napoli, sì. Cioè mi sembra Cutolo perché l'idea della omertosa, del fatto che non si deve dire nulla anche se tu dici una cosa gravissima, sai che cos'è? Ho stuprato un bambino ieri sera, dice un giocatore ad un altro giocatore. Eh beh, però l'hai detto dentro il campo, non lo diciamo fuori. C'è il lodo, non so se Auriemma o il lodo... Il lodo Auriemma si no, chiama. No, il lodo Auriemma. Perché quando hai l'adrenalina... Il codice, c'è il codice dell'omertà in quello che succede in campo, è sacro. Ma di che stiamo parlando? È una cazzata, Mancini ha fatto benissimo, ripeto, a rivelare all'Italia le piccole miserie di Sarri, perché di questo si tratta, perché chiamare frocio o finocchio qualcuno in senso dispregiativo è una piccola miseria. Io uso la parola frocio, ma non la uso in senso dispregiativo. Insulto qualcuno, c'è gente che mi ha detto: ah, adesso stai facendo il politicamente corretto. Ma di che parlate? Sono cose completamente diverse. Spesso qui ci scontriamo, ci affrontiamo, diciamo anche delle parolacce, ma cosa c'entra tutto questo con l'offesa gratuita? Non è che chiamo uno e gli dico frocio finocchio, perché di quello si è trattato. Perché non è che Mancini gli ha detto: sai, mi scopo tua moglie, e quello gli ha detto frocio finocchio. No, gratuitamente gli ha detto frocio e finocchio. Vabbè, Davide, che volevi dire? Io volevo ricordarvi che poco tempo fa, non ricordo quando, ma Sgarbi fece la stessa cosa con Barbaceto. Anzi, fu ancora più cattivo proprio. Gli disse frocio, ricchione, anche cazzo moscio, gli disse. E quindi volevo sottolineare un po' questa mancanza di coerenza dei media, e forse anche vostri, io non ricordo. Ma non mi ricordo, voi, ma chi è? Finocchio, Sgarbi, che ha detto però... Finocchio a qualcuno. Vabbè, ma Sgarbi è Sgarbi però, cioè qui c'è il lodo Sgarbi. Però Sgarbi dice cose abominevoli. Sgarbi però va in tribunale quando dice delle cose cosiddette abominevoli. Esatto. Va in tribunale, viene citato in tribunale, c'è un avvocato che io abbraccio fortissimo, l'avvocato Cicconi, grandissimo, che sta lì e che si fa un culo così ogni giorno per salvare Sgarbi. Di che stiamo parlando? Cioè, non è che se Sgarbi quando magari incazzarsi anche con Sgarbi ma perché però... No, ma io qui discuto con questo Auriemma non so di Auriemma, il quale sosteneva che nel campo da calcio si può dire qualunque cosa, cioè una zona free in cui puoi fare qualunque cosa, tanto rimane là dentro e quindi c'è la libertà di insulto, cosa che nella vita reale quotidiana non è, capito? Ciao, sì, Davide. Sì, quello ciao. Sì. Ciao, allora, Davide, basta. Ciao. Aspettiamo fiduciosi, aspettiamo. Ah, certo che se uno vuole prenotare un tavolo in questo ristorante, altro che bambini, pure se sei... No, pure se sei single o sei una coppia che odia i bambini, col cazzo che ti fanno prenotare. Ma che ristorante è, oh? Ma l'avranno chiuso sto posto. Ma posto, che ne dai. So, cioè, è una cosa incredibile. Non rispondono al telefono. Oh, no. Allora, Gaia da Milano, vai Gaia. Ciao, finalmente, buonasera a tutti. Dimmi. No, io avevo chiamato per quel fatto di prima, cioè che parlavate dell'aborto, dell'unitero, tutte queste belle cose qua. Cioè, io sono una donna. No, comunque volevo fare una parentesi sul calcio, che a me non interessa, il calcio proprio non mi interessa, ma volevo dire, cioè, che se ogni scurengia che facciamo va in televisione con tutti i problemi che ci sono, cioè... Voglio dire, non è che anch'io quando gioco a calcio del merito, dire? Del calcio, cioè che se possono andare a fanculo tutti insieme, cioè voglio dire. Vabbè, possono andare fine, a fanculo tutti nel calcio, vabbè. Quello. Cioè, non è che ogni piccola cosa si va in televisione. Comunque niente. Mica mia, il calcio è una cosa popolare, tutto quello che avviene all'intorno popolare, del calcio, vabbè, tutto sì, quello che avviene all'interno del calcio certo, si discute, si parla, eccetera. Ma anche in televisione a volte senti di quelle cose. Vabbè, che ma che vuoi dire? Spiegami. Che no, vuoi dire? Niente, io volevo dire solamente che se ti cresce un figlio in pancia, cioè io sono una donna e ti assicuro che con tutte le donne che conosco, con tutte le amiche che ho, con tutte le persone del mondo che ho conosciuto, non ho mai sentito una donna che è contenta di fare un aborto. Ma e allora... tanto meno di crescere un bambino nella pancia e poi darlo a qualcun altro. Cioè, no, volevo dirti questo, e comunque anche tu sei incoerente, perché tu dici, cioè tu fai le battaglie per promuovere la libertà. Ma io non faccio nessuna battaglia, io certamente non faccio una battaglia per l'utero in affitto. Io dico semplicemente, che a parte che sono casi, diciamo, che si contano, sono pochi casi rispetto diciamo alla popolazione mondiale. Comunque si fa nascere, aspetta un attimo, si fa proibire di venderli i bambini, li fanno fare si fa nascere un bambino. Tra l'altro uno dovrebbe essere a favore della vita, uno come Adinolfi, no? Cioè, si fa nascere un bambino. Si fa nascere un bambino. Ma non si può dare si via fa un nascere bambino. Aspetta, nascere si fa nascere un bambino. Tra le altre tecniche c'è quella di portare il proprio seme dentro la pancia di una persona. Adesso parlo come Capanna pure io. Esatto. Portare il proprio seme dentro la pancia di una persona. Abbiamo messo a punto una nuova tecnica che si chiama riproduzione artificiale. Da questa roba qui pagata nasce un bambino che poi certamente non avrà la madre, perché naturalmente lo fanno spesso coppie omosessuali, ma non solo, anche coppie eterosessuali ogni tanto. Non avrà la madre, come dire, naturale. Ho capito, ma nascerà tranquillamente, crescerà, è una vita, un amore che si crea, che lo scambio di denaro, che cos'è che vi fa schifo? La compravendita, non capisco, Gaia, cos'è che ti fa schifo? La compravendita dei bambini, cioè già vendono gli organi, già vendono i bambini, in più adesso... Ma non è la compravendita in questo senso. L'idea di usare l'utero come una fabbrica. Ma dai, esatto. L'idea di usare come una... Anche questa cosa dell'utero. L'utero, è l'utero, vabbè, è una cosa, l'utero. Vabbè, è l'utero. È l'utero, vabbè, ma non è una fabbrica. Sì, ma non è l'utero come la se fabbrica fosse fabbrica, è quella come che se fosse una cosa sacra. La fabbrica ce l'ha Squinzi. È una parte del corpo, l'utero. Quello è fare industria, fare azienda. Cioè, una donna che si mette industrialmente a sfornare ogni 9 mesi con una pausa di qualche settimana dopo il parto, non è un'industria. I bambini non sono un'industria. Vabbè, hai detto la tua cosa scontata, dai. Oh, esponenti dell'Arcigay hanno chiamato i club di tifosi del Napoli. Esponenti dell'Arcigay hanno chiamato i club di tifosi del Napoli per ottenere delle scuse. Sentiamo. Pronto? Sì, buonasera, parlo col Napoli Club. Sì, prego. Io mi chiamo Eros Cirillo, sono presidente dell'associazione Mondo Gay. Sì. Senta, da tifosi del Napoli, non vi vergognate ad avere un allenatore omofobo e razzista? Ci dobbiamo vergognare, perché? Come perché? Ma lei ha sentito che frase ha detto a Mancini? Gli ha detto Frocio e Finocchio, non mi dica che questa... Mancini, cioè, se avessi trovato a me ieri sera... Se uno degli spogliatoi gli avessero trovato tanti quei schiaffoni l'avrei preso a calcio, sinceramente. Ma perché è una merda, non è. Non... Allora io le posso anche dire, ma avete vaffanculo. Magari. Appunto, lei si offende. Fino a stamattina nessuno sapeva Mancini se era un gay o è un uomo. Beh, ma guardi che noi gay siamo uomini, eh. Bravo, bravo. Ma quello no. Non è un gay e nemmeno un uomo, secondo me. E allora se non è gay, se non è uomo, cos'è? Un ciucco? È solo una merda. Senta, da tifosi del Napoli, non vi vergognate di avere un allenatore razzista e omofobo? Guardi, è una vergogna che lei faccia una telefonata del genere. Ma sta scherzando? Sarri gli ha detto che è un frocio, le sembra una cosa bella? Perché lei sta chiamando glielo una spiego. Persona glielo spiego. Di tifoso. Glielo spiego, perché lei da rappresentante di un Napoli Club dovrebbe dissociarsi e scusarsi. È imbarazzante, ribadisco che è imbarazzante la telefonata, poi se lei... Ma come è imbarazzante la telefonata? Certo. Io devo essere imbarazzante, ma imbarazzante è lei, si vergogni. E forse l'omofobo è lei, perché potrebbe anche essere un complimento, lei si sente offesa se la chiamano, è uno status. Certo che mi offendo, perché se uno mi dice frocio è offensivo. No, non ha detto frocio. Ha come detto no? Ha detto frocio e finocchio, entrambe le cose. Ci stiamo a sottilizzare sulle espressioni. È una bella differenza, perché se lei mi chiama io non mi offendo. Posso dirle una cosa, se a me mi dicono tu sei un napoletano, sei uno sporco napoletano, io sono contento, se ne vado fiero. Se uno dice napoletano è una cosa bella. Se uno dice sporco napoletano è offesa. No, io non mi offendo. Ma come non si offende? Io non penso di essere sporco se sono napoletano, quindi io non mi offendo. Lei non si offende se uno le dice sporco napoletano? Assolutamente. Ma come no? Anche se mi dice terrone, anche se mi dice terrone, perché io da napoletano non mi sento sporco. Lei, se è gay, si sente sporco perché è gay, oppure si sente ghettizzato? Ah ragazzi, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani, dai, forza. Ci sentiamo domani 18:30. Sono rotto i coglioni, addio, ciao zanzara di merda. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vengato, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.